Va bene, gli fa il previously. Anche se noi non ci eravamo sul finale, nel senso. Vabbè, infatti faccio fare, dai. Abibox, se tu non so la cosa sono. Abibox, vai. Vai Giulia. No, però di solito abbiamo iniziato. L'altra volta, aspetta. Sì, allora lo faccio io. Beh. Allora. Un Abibo molto utile. Sì, molto utile questo Abibo. Allora, previously. Previously può essere semplicemente sintetizzato con Damasco uccide tutti. Yay! Ah, non è vero, Baga convinto un sacco di aspetta, cose. Da dov'è che è iniziata la scorsa sessione? Parlavamo con Demone. Da quando? Ah, parlavamo con il Demone. Ok. Abbiamo parlato con il Demone. Faceva parte della sessione. Esatto. Abbiamo iniziato la sessione parlando con il Demone... Bilaxar. Non ricordo bene. Che era uno... Sì, Bilaxar. Che era uno scagnozzo del Demone, signore del... del diavolo, scusa. Del diavolo, signore delle dune del diavolo, appunto, Daraka. Non si chiama dune del diavolo comunque questo posto, si chiama... È chiamato inferno nella lingua sulima. Però il prete aveva detto le dune del diavolo saranno di nuovo solcate. Sì, ma... Quindi così per dire. Daraka è il diavolo che, diciamo, ha la sua influenza su queste terre. E Bilaxar ne era, diciamo, un vassallo in qualche modo, ma è stato rimosso dal suo incarico da un non morto, non meglio identificato, che ha preso anche la sua... Ah, si chiama... Aspetta. Ah, giusto, perché aveva il nome Truzzo. Aveva... Ce l'ho. Cioè, è sempre Truzzo, ma non così ridicolo. Scusa, devi... Faccio finta di fare quella che fa la sana. Con l'acqua. Allora, suo nome? Aspetta, perché c'ha... Anche un primo vabbè, nome. Thunderstorm. No. Il demone... scusa, il non morto Earthbreaker. E praticamente... Thunderstroke! Che praticamente ha rimosso Bilaxar dal suo incarico di vassallo e si è instaurato lui prendendo anche la sua dimora. Sua dimora in cui è anche conservata un sacco di Asdratite, che è quello che noi stiamo cercando. Il patto con il diavolo, siamo scesi a patti con il diavolo, che fa le pentole mani coperchi e siamo messi d'accordo. Guardate in saccoccia. Sì. Nel pieno. Che diciamo ci siamo messi d'accordo che ci saremmo portati alla sua dimora, avremmo ucciso questo non morto, facendo ciò l'avremmo liberato, ma ci saremmo appropriati dell'Asdratite. Siamo fidati perché si diavoli... Crack maestro del fuoco. Ah, Crack maestro del fuoco. Crack. Nome importante. Crack maestro di cucina. No, Crack. Crack. Okay. K-R-A-K. Sì, Crack, come la droga. Come quello che fu. Esatto, quello che fu senza la C. Ah, perfetto. Cioè, è con una cava forse la C, diciamo. Ok, dicevamo, ah sì, e poi ci saremmo appropriati dell'Asdratite in cambio della sua liberazione. Siamo fidati perché i diavoli sono molto legali, quindi abbiamo pensato che probabilmente manterrà la sua parola. Si dice molto legali, si dice sono persone, sono creature che molto dedite all'ordine. Molto dedite all'ordine, ok. Rispetto spesso la parola data. Le rotte in culo. Sono famosi per i loro accordi, i loro patti, cioè i loro contratti di... Diabolici. Ok. E niente, ci siamo incamminati, abbiamo fatto tappa da Yunkai Shek per riferire. E siamo partiti. Istral con Atral Gol. Con Atral Gol, per fortuna di Istral. Minchia, veramente. Ecco. E morto, no. E Atral Gol, sì. Atral Gol il compagno di... La carnivora. La carnivora. Cioè, nel senso. Com'è che si chiama? Cioè, nel senso, morirà Azalea. Adesso, diciamo, perché non vi ho fatto ancora il flashback. Il compagno della cannibale Azalea. No, beh, è morto. Però gli farò fare così. Ah, giusto. Adesso lo faccio. Dopo 3 giorni di cammino, siamo giunti a questo albero gigantesco. Che era particolarmente inquietante perché persone morte o morenti, non ben identificate, si arrampicavano sulla sua corteccia, essendo dilaniate dalle molte lame che ne fuoriuscivano, no? Alla base di quest'albero abbiamo incontrato un simpaticissimo, un bravissimo ragazzo che era un... Era sempre un Nightshade. Nightwalker, no? Quelli... Esatto. Diciamo. Ma che abbiamo... Un esterno! Diplomaticamente convinto a... È un non morto. A portarci in cima. Un po' di diplomazia molto difficile, devo dire. Una volta giunti in cima, grazie all'aiuto del Nightshade, siamo stati accolti da 2 tizietti... che avevano uno sguardo che faceva rimanere negativi, ma li abbiamo shottati, uno l'abbiamo shottato, l'altro è corso sulle scale, abbiamo avuto una vicente battaglia sulle scale con lui e poi sono sopraggiunti altri tipo 4 arcieroni. Si chiamano Bicock. Bicock, arcerazzi scheletrici volanti, anche lì li abbiamo uccisi, ingenerando l'ira del master, perché l'abbiamo ucciso velocemente, e siamo entrati... No, no, siamo arrivati ad una stanza, ci siamo teletrasportati dentro e così stato ammazzato per fare un full attack, e è successo l'inferno, perché c'era un Nightshade, quindi enorme, un CR16 corredato. Vero, di... il problema non era il Nightshade, ma erano i piccoletti, esatto, era Revenant, che non contavano neanche per il CR probabilmente, esatto. Ecco. I quali però, diciamo, essendo in tanti, facevano questo urlo AOE che ti rendeva impanicato per un D4 di round. Esatto, che vuol dire che non potevi fare niente. Sì, esatto. Stavi lì a prendere botte, fondamentalmente. Esatto. Il fatto che, essendo in tanti, era facile fallirlo. E quindi, cioè, spesso si trovava con gente che... Non sono morti, sì. Quindi non avevamo mai mind affecting. Certo. Tutto, esatto, tutto. Ma comunque non abbiamo mai agito prima del terzo round, quindi... Esatto, cioè... Questi che c'è sono i miei danni, 126? Può darsi, sì, sì. Probabile. Ah, grazie. No, no, mi sa di no, perché tu li sei in negativo, giusto? Tu non hai preso danni, mi pare. Praticamente. Ah, è vero. Cioè, ah, beh, qui ci sono dei no, calcoli. Sì, no, ci sono sopra i calcoli dei danni, guarda. Oh, vedi. Sono quelli lì. Ah, sì, okay. Che li ha fatti. Vabbè. Scusate, invece... Sì, sì, ne hai presi, non sono, cioè, molto grande. Avendo preso un più due alla forza, cioè, più, più due danni, intendo. Mm-hmm. Vuol dire che sono... coperta, non lo so, non ho capito bene per il coso della forza, visto che ce l'ho bassa. No, non ho capito, scusa. Ah, per i danni alla forza, quindi è uno a tiro per colpire i danni. Ho capito. Esatto. Che culo, eh. E CMB. In tutta questa pappardella di nemici c'era anche un divoratore con un archetipo, un template particolare messo da Danilo, che faceva un milione di danni di furtivi, sì, sì, è legittimo. Approfittando anche del nostro stato di impanicamento che gli consentiva di furtivarci. Monster Codex, scusa. Vabbè, insomma, una battaglia che non si sa come ne siamo usciti. Senza l'aiuto del master. No, si sa. Senza l'aiuto del master. No, ripeto, si sa come ne siamo usciti grazie a Damasco, che fa un milione di danni a round, e anche grazie a Giorgio. Non di certo grazie al Barbaro. Ok, tu non mi ricordo se... Stavo morendo. Lei stava morendo. Minchia, tu ti avevi andata per morta. Io, a un certo punto... Ha detto basta, è morta. Però poi ci è venuta un'idea, cioè che potevamo... trarti fuori dalla battaglia utilizzando l'inutile Barbaro, che non aveva neanche l'arma, per trascinarti via, in modo che non hai preso 5-6 full attack e non sei morta sostanzialmente. Quindi alla fine hai rischiato tantissimo. Ma perché questa campagna mi sembra che il Barbaro prenda solo le botte e basta? Sì, è un'impressione di tutti. È l'unico melee, tipo lei lancia sempre la giorovente anziché andare a prendere botte, quindi tu prendi le botte. Tu prendi le botte. Ma meno male che ho rubato una No, ma non è vero, dai, lei minchia ha preso 100 e passa danni. Anche lei ha preso un sacco di botte, perché ci sono tantissimi range, per quello. Mm-hmm. Io danni vengono ripartiti tra i poveri melee. Esatto. Tra il povero melee. No, anche lei. Anche lei un pochino, dai. Il fatto che poi quando lei non va in melee, tu prendi proprio melee, rischi sempre la morte. Infatti ho metà DPF e l'arma gotta, cioè... Vabbè, Simone, standard. Ok. Lo sappiamo tanto cosa succede se muoio. Vabbè, basta. Chiudiamo tra la sessione si è chiusa. La sessione si è chiusa appunto con la fine della battaglia. Sì, però durante la quale si è ucciso il drogo. Ah, giusto. Cannibale. Perché non frega un cazzo a nessuno. Così ho fatto l'arma. E insomma, lei non sarà molto contenta. Sì, infatti, basta che non ci faccia mangiare da lei. L'anima del drogo di Atral Gol. Il drogo è steso a terra. No, con tipo la pancia perforata dalle unghie del divoratore. Ah, ma lui è vero, gli aveva anche mangiato l'anima, sì, tipo una roba del sì, genere. Sì, sì. Vabbè, fa niente. No, ma non gliel'ha mangiata tecnicamente, regolisticamente, ma perché... Ma poi se tu lo uccidi torna, tipo una roba del genere, si libera l'anima. Comunque, regolisticamente gliela mangia, tipo se fa un critico, una roba del genere. No, ma infatti in realtà, tipo, che io l'ho ucciso con le unghie, per detto, non facciamo così, però... In realtà l'ho ucciso con l'unghiata. Con l'unghiata, ok. Ok, quindi c'ha la... C'è tipo la pancia completamente bucata da quel zampilla sangue, e anche la bocca praticamente sta soffocando. Ok, vado. Sta soffocando nel suo sangue. Mi avvicino. Non fai in tempo a fare niente. In realtà ti accorgi che è soltanto quasi un riflesso condizionato. Non c'è più nulla da fare per lui. Non c'è più nulla da fare per questo poveraccio. Io sono in ginocchio e tengo la mia sparata, l'ho sparata così in metà. La povera Zalea si dovrà trovare un altro compagno. I suoi occhi si spengono e venite, cioè diciamo che il terreno sotto di voi scivola via lontano, come era successo quando era morto Hale Haverton, e vedete in lontananza il luogo dove eravate prima. Ma ora dinanzi a voi vi sono le immagini della vita di Atral Gol. Venite a conoscenza quindi del fatto che, cioè lui non è che ha conosciuto sin dalla tenera età la Drow, ma era in realtà un tempo ingaggiato in una missione per ucciderla e per porre fine alle sue turpi, diciamo, manie. Sì. Ecco. Usanze. Usanze, sentire così, no? Tuttavia, la missione, come si può ben immaginare, non è andata a buon fine e tutti i suoi compagni sono stati uccisi dalla Drow. Lui però è stato risparmiato. Lui però, vedete che lui viene risparmiato da Azalea e viene torturato e costretto tipo a mangiare la propria carne perché è l'unica cosa che gli veniva data da mangiare, oppure e poi gli faceva mentre il suo corpo veniva rigenerato grazie alla magia della chierica, no? Finché la sua mente non è stata completamente spezzata e asservita al volere della, come quello del Tony Spade, Azalea, più o meno, esatto, come Rick, ovvero cosa lì, guarda lì, di ferro, esatto, non viene in mente il nome, cioè nel senso lui, comunque Greyjoy, ecco, esatto, più o meno come lui, Theon, mamma mia che brutta cosa, cioè alla fine, infatti per questo forse non parlava molto, vi rendete conto, è diventato in questo modo un succube della Drow. Mi mancheranno le chiacchierate con lui. Torniamo in noi? Sì, tornate lentamente alla... Chi vuole andare ad uccidere la carnivora? Cannibale? Stupefacente. Magari più tardi. Non ci leggiamo giudici dell'operato altrui, anche se questa volta devo ammettere persino io che è quantomeno discutibile. O disgustoso. Tuttavia, la devozione per i propri dei spinge a fare cose... anche estreme, si può capire. Immagino che tu ne sappia qualcosa. Molto, ma voi non ne sapete nulla. Bene, c'è un problema. Non vorrei che, come il fantasmino di Hail Aberton, il povero Atral Gorl ritorni a perseguitarci. Oh, santo Dio, vero? Io sono ancora sotto shock. Noi siamo tutti molto provati da questa battaglia. Io stesso subito una paura che non avevo mai provato prima, soprattutto per così tanto tempo. Ripetutamente. Però, se non sbaglio, non era entrato. Non c'era anche Nash che faceva quella roba lì prima, appena iniziato. Sì, fa una roba del genere. C'ha un gaze attack. Sì, sì, infatti era un tripudio di TS, Saber Die. Saber Sack per un po'. Bene, è giusto... Consiglio di rifugiarci nella mia magione per un po' di tempo, quando non ci saremo ripresi. Portiamo il corpo di Atral Gol e distruggiamo. Anche se il corpo di Atral Gol come finisce? Si sgretola. Si sgretola. L'equip no, vero? L'equip sì, perché con quello di Leo è successa esattamente la stessa cosa e l'avete recuperato poi dal fantasma. Ok. Tornerà fantasma. Temo che tornerà capeggiando uno stuolo di Wright. Dovremmo dormire a turni oggi nella mia magione. Non sai se potrebbero raggiungere anche nel... Non lo so, infatti. Non ho idea di come funzioni il potere della Sratite, di quanto lo trovo. Una prova di conoscenza, se sì. A conoscenza di che tipo? Arcana. 1. Ok. Cosa so? Ho fatto che tipo... Comunque, da mangiare. Comunque ho fatto tipo 18, Ma che buona da mangiare la Sratite. Io ho fatto la Sratite, è buona da mangiare, 18, ma al di là di quello non saprei che effetti. 18 va anche 18 conoscenza. Anche lui ha fatto 18 con 1. Ah, ok, noi perché non lo sai. Ok. Cerco un'arma. Allora, dai tizi, mi sa che non trovi molto. Vabbè, se c'è qualcosa. Perché io ho un arco composto, ma dubito di essere molto utile con un arco composto più. C'ho un kunai se vuoi. Grazie. Comunque, ovviamente non apro il portale in questa stanza che probabilmente si riempirà di nuovo in fretta. Magari possiamo avanzare nelle scale successive e appena fuori creare la magione. Anche. Non so se possiamo rischiare. Damasco, dici se dall'altra parte della porta c'è qualcuno ad aspettarci. Guarda. Antoni? Danilo? No, aspetta, un attimo che devo trovare la mappa e tutto. Basta Wade. Vedi se c'è una... Ci vuoi fare un po' di perception, eh? Hai capito, dopo. Basta Wade. Ma lei ha fatto quei guanti che vede? No, Master. Per cercare qualcosa. Cercare roba. 25. Mi dispiace. Cercare tessori. No, non i tessori, voglio una mazza. Ma c'è la... quindi l'equip è vero. Quindi c'è neanche la falcata. È quello il problema. Se no mica mi piace cercarla. Cazzo. Se no, ha voglia di polymorph che inizia a minare. Ci sarà qualcun altro con qualcosa di... Mi serve tutti attacchi con le claw. Non posso usare per adesso riparazione di fortuna? Voilà. Che a quanto ho capito non funziona, capito? Dice Danilo. Perché che è polverizzata la mia armatura, cioè, non è polverizzata, però non hanno la broken condition, qualcosa di peggiore, ma non ho capito cosa. Adesso andiamo a vedere. Ok. Dove è io l'avevo pensata. Comunque, adjustable polymorph. Niente, ci sono solo gli attimi comunque. Ok, che non avevo capito come farlo. C'è qualcuno usa la scomposa è più uno? Sì. No, mi ha detto che era buono. Sì, sono più uno. Ma io l'ho detto. No, sono più 3 più 1. Cioè più 3 il modificatore di forza che ci puoi mettere. Ah no, allora sono quelli di prima che ha più 5. Quelli sulle scale. No, erano quelli sulle scale. No, aspetta, forse era già la più 5. È più 5. Perché io ho segnato un arco composito più 1 e mi sono messi più attacchi. Boh, non ce li ho qua. Comunque, lo siete voi, ci sono due porte. Una a est e una a sud. Compresa quella da cui siamo venuti? No, quella da cui siamo venuti è a ovest. Ok, è a ovest. Quindi ce n'è una a est di fronte e una a sud, alla destra di dove siamo venuti. Guardiamo quella di fronte, guarda con i tuoi guanti, Damasco. Vai, guardi attraverso la porta. Ok, vedi che la stanza, cioè quella di fronte è su quella a est, no? Sì. Ok, e la stanza davanti a te sembra essere sembra non contenere nulla di rilevante se non appunto delle scale che salgono. Perfetto. Al piano successivo. Ok, io direi consiglio di aprire la porta e appena entrati sulle scale creare l'accesso alla mia magione. Vabbè, per entrare. Per non aspettare qua che magari poi si riempie di gente, mentre le scale sono un luogo di passaggio. Puoi fare anche le altre scale che sei sicuro che non c'è niente. Ma ho paura che poi si riempie e poi dobbiamo affrontare un'altra battaglia mentre ci sei in posizione più avanzata. Vabbè, mica respawnano, Non lo so, può essere però che si ripresidi. Vabbè, allora le faccio sulle scale indietro, se mi rassicuri. Allora torniamo nella... Ah, tu dici perché questa, in effetti questo posto tu dici l'hanno usato come... come presidio. Come presidio, allora sì. Allora le scale su, appena successive, quelle a est, apriamo la porta e sulla parete di destra creo la mia magione. Invito tutti ad entrare, se volete mi seguite, e quando, appena si chiude la porta dietro di noi diventa invisibile. Ok. Visibile può essere ovviamente vista la trussing e tutto il resto. Però sto pensando se posso fare qualcosa per occultarla ulteriormente... Però non direi. Cioè potrei fare. Lo stone non ce l'ho al momento. Vabbè, la teniamo così. Non c'è. Vabbè, lasciamo stare. Ok. Adesso giochiamo per gli oggetti. I suoi, secondo te i suoi guanti possono vedere anche attraverso la porta della mia magione? Se sa che c'è, non vedo perché no. Per evitare imboscate magari guardiamo prima di uscire. Quindi adesso ci riposiamo. Quindi devo cancellare i danni. Non tutti. E io devo essere curato. Santo cielo. Io no, 89 su 94. Senti. Siamo tutti benissimo. Io sono in te. Abbiamo le cariche della bacchetta che solo io so utilizzare. Proviamo. Niente, usiamole. It's ruined. La bacchetta? No. Quando... è rovinata? It's ruined. Ok, qualcosa che si può fare contro la ruined condition. Vediamo su. Piangere. Quando raggiunge. La metà è broken. È broken. Si condition. Rui. Stai guardando tu, Danilo? Sì, aspetta. Noi vediamo. Broken. Vabbè, questo non ci interessa. Ci interessa ruin. Intanto io curo la gente. Chi è che teneva la bacchetta? Lei, mi sa, io no. Ti ricordi per caso quante cariche avevano? Forse ce l'ho scritta anch'io. Io la bacchetta ce l'avevo. Ti ricordi quante cariche abbiamo usato? 12, ma non so se le avete usate dopo che sono andate via. Sì. No, non le abbiamo usate più dopo che siamo. No, allora 12 ne abbiamo usate. Ne abbiamo usate 12, quindi ce ne restano 38. Lei deve essere curata di tipo 80. Allora, sì, prima di tutto do fondo a tutte le mie risorse. Quindi, per curarvi. Bravo. Quindi evoco. Bralani. Sì. Lancio Summon Monster 7. e nella mia magione vedete comparire questi angeli esattamente nel numero di un 4, nel numero di 4. Comunque a quel punto dice che è distrutto, il destroyed, quindi non è più utilizzabile? Direi di no, cioè non è più anche pagabile, questa è la domanda. Dici? No, non è più pagabile. Ci ho buttato via 8.000 monete d'oro. Sembra un po' pesantino. Scusa, fai lì dalla broken condition. No. Perché no? Equipaggiamento da NPC e c'ho l'arma rotta. Benissimo. Cioè, sto girando con 1.000 monete d'oro di equipaggiamento. Ottimo. Che bello. Allora, ogni Bralani fa cura 3 dadi da 8. Scusate. Facciamo così. Bralani... Ma esatto. Qua è solo 50 PF. Comunque. Adesso vediamo quanto. Make wall lo puoi rimettere a posto. Te l'ho detto make wall, ma. Toglie la broken. Toglie anche la destroyed. Ah, togli anche la destroyed. Sì. Ah, perfetto. Vabbè, comunque. Sì, make wall can fix destroyed magic items. Ok, comunque per make wall. Ci vuole make wall greater. Perché sennò ci vuole un caster level troppo elevato. Perché? Perché make wall, per ripristinare l'arma devi tipo avere il doppio del caster level rispetto a quello. Non so quanto è il caster level per crearla. Sarà 5. Ah, beh, allora ok. Vabbè, comunque io non ce l'ho, quindi. E poi nel caso con la nuova regola 3, 2. Ah, giusto. E... Puoi prenderlo tu, se non ce l'hai il magus, vero o no? Tu c'hai solo enhancement bonus, mi pare, no? Io solo sì, affilata. Allora sicuramente caster level 5. Va bene, dai. Sono affilato, è perfetta e poi... Vabbè, comunque per ora niente, perché io non ce l'ho. Ce a meno che non possa prendere il magus, ma non credo. Adesso soffermiamoci un attimo sulla cura. Mm-hmm. Allora, il Bralani fa cure Sirius. Sirius bonus mi pare che siano 3 di 8. 3 dadi da 8 più 6, quindi abbiamo 4 Bralani, 8 cariche, quindi 3 dadi da 8 più 6 per 8, quanto fa? Cos'è sto rumore? No, mio padre ti chiama dalla Slovacchia. Ah, ok. Dalla Slovacchia. Allora, aspetta a lavorare. Un dado da 8 ha una media di 4,5 più 6 per 8. Povero, no, scusa, più 6 uguale per 8 sono 84 cariche. Sono, scusa, 84 PF di cura. Io ne ho bisogno solo 50. Ok, tu 50 e tu 34. Tu 34, segnati che hai 30. Se no, dai, ne subito 34 a lei, così lei si full. Le do 34 a lei e 50 a te. Ah, ok. Tu sei full e tu 34. Adesso faccio un'altra evocazione. Ok. No, aspetta, ma vuol dire che io arrivo a 34 PF? O no, ti curo 34 PF. Okay. Adesso faccio un altro Summon Monster 6. Scusate che è un po' lungo, ma stessa cosa. Okay. Anzi no, faccio un Summon Monster 7, così evoco un dado da 4 più 2 di Bralani. Asti cazzi. E evoco 5 Bralani. 5 Bralani vuol dire... Il numero di cariche, cioè scusa, il numero di PF curati per ogni cura per il doppio del numero di Bralani, quindi per 10, quindi sono 105 PF. Di se ne sono 37 PF? Sì, ne cura immediatamente. No, vabbè, aspetta. No, vabbè, prima cura lei. Quanti... A lei ne manca 50. Te ne manca una cinquantina? Sono 10, 26, 36. 36 più 9, 45. Basta. Ok, tiene curo 45 e ne restano 60 che possiamo utilizzare. Io sono full proprio. Ok, meno 45, 60. Giorgio non lo sappiamo perché non giocherà con noi questa sera. Quindi è talmente messo male che bisogna per forza riposare. Ok, a te ne manca il 37. Quindi da questi 60 ne detraiamo 37. Grazie. E sei full. Io non ho preso danni. Quindi siamo tutti full. Ok. Posso cercare un'arma improvvisata? Bene, non abbiamo usato neanche una carica di bacchetta. Hai un tavolo? Grazie. O una trave? O dei legni molto grossi in casa? Sì, perché? Mi servirebbero, se non ti spiace. Dubito che i materiali che vengono trasportati fuori da questo luogo perdurino, oltre la durata dell'incantesimo. Peccato. Boh, non lo so. Beh. Dici tu. Guardando se qualche creatura evocata c'è. Ma poi ti vuoi craftare un'arma, dai. No, ci metti troppo. No, non crafto l'arma, uso l'arma improvvisata. Quello è meno 4, l'ho già calcolato, non lo so più. Cioè, ti immagini un bambino che stacca una trave dalla casa e picchiare la gente. Sei leggermente inservibile così come sei, senza neanche un'arma. Te la sei fatta rompere. Vediamo se il Magus ha... a sto make wall al massimo. Ma tanto non è che è spontaneo come caster, no? No, gli do la mia pistola. Però dorme, adesso dormiamo nella regione. Sì, ma non è cioè deve avercelo, deve averlo scelto già. Ha un libro anche il Magus. Sì, lo so, ma lei non credo non abbia ancora scelto quella, dice troppo. Allora, comodo. Guarda, troppo comodo. Vabbè, però al prossimo livello. Beh, scusate. Ah, lo posso prendere io al prossimo livello, ma non lo farò. Un incantesimo di secondo al posto di uno di terzo. Sì, vabbè, credo che lo farò. Vedi tu, cioè alla fine non è... posso prendere questo muro di fuoco, devo aspettare il prossimo livello. Ma muro di fuoco è una pippa colossale. Ma me l'hai deciso di prenderlo. No, tu hai detto un muro di fuoco. Prima cosa che ho imparato, mai ascoltare il barbaro. Non ce l'ha il Magus, quindi... Quello che era forte, non mi ricordo già più. Mi troverò davanti alla scelta. Ah, spruzzo di colore, così era, quello lì era buono. Beh, quello è forte. Che non posso segnare. Devo aspettare il prossimo livello. Fa schifo il livello. No, quello lo puoi segnare. Ma cos'è? C'ha un TS schifosissimo. No, non quello lì. Mi ricordo. Spuzzo collocato. Affligge solo un certo numero di. Ma comunque, è una pippa. Giulia, se tu puoi prendere incantesimo di quarto, non prendere un incantesimo di primo livello. Perché... No, li ho guardati. Però il problema è che tipo c'era. Non arma focalizzata, ma per farti capire. E io avevo le. Cioè, cose molto simili già dati dal Kensai. Capito, cioè per quello che alcuni non li ho presi. No, certo, ma senti, lascialo un attimo in sospeso, poi ti aiuto sì, io. Perché comunque spruzzo colorato incantesimo di primo livello. No, è che mi piaceva per quello. No, che ma comunque non è male a livelli bassi, però adesso è un po' nerfato. Non ho capito quello che per la tua arma non so bene come possiamo fare per il momento. Al prossimo livello immagino che anziché prendere un incantesimo di livello 7, prenderò un incantesimo di livello 2. E ti ricreerò l'arma strappandoti la faccia con i miei artigli. Ma la colpa ti ricordo che non è mia. Sì, invece. In una notte ti insegno a usare una mia pistola. La prossima volta evo più invece di star lì avere paura. Ma non ho una pistola. Che tra l'altro è sul tiro volontà che dovresti essere fortissimo. Sì, infatti sono 10, solo che ho tirato tipo 2, 3, 5, 2 e 2. Vedi che hai sbagliato tu a scrivere, mi hai scritto muro di fuoco buono, gli altri no. Allora, al contrario. Ti sei confuso. Era esatto contrario, amore. Esatto. Allora era fulmine globulare di qua. No, quello fa schifo. No, anche quello è mia pippa, perché devi usare un'azione di movimento per muoverlo e tu devi fare quell'altra. Pelle di pietra. Pelle di pietra è buono. Ok. Pelle di pietra è forte, sì, perché ti dà una resistenza. Va bene, e... Io uso l'improvvisata per adesso, finché non... Tanto poi se arriva l'altra arma... Prendi un'altra arma chiodata. Quando saliamo di livello ti farò make wall. No, ma senza che lo fai, se io prendo l'altra arma, comunque c'è forte lo stesso. Ma quale altra arma? Quella del tipo lì che dovrebbe tornare. Che lui c'è. Io c'ho il funk, lui ha la falcata. Sì, ma. Non so qual è. Non sappiamo quando riappaia e poi. Vabbè, si riapparirà durante il combattimento col boss, ovviamente. Ah, bene, quello è un problema. No, ma nel senso, se riappare prima, cioè. Vediamo poi che tipo. Posso sapere che arma ha? Lui che arma aveva? Aveva una falcata. Sì, ma. Cioè, se il range che così io. Non posso dire se è affilata. Non era affilata. Ok, è una pippa. Che palle. Non so proprio come risolvere la situazione dell'arma. Non mi è mai capitato, sinceramente. Cioè, la prima volta mi capita. È evil. Eh sì, you are evil. Lo sappiamo. Si strunze. Master bastardo. Cosa facciamo? Adesso che tu volendo essere buoni, ma non vedo perché dovrei. Ci sono delle creature che hanno tipo che castano da chierico. E la spell del chierico quello. Quindi tu dici io evoco una creatura che. Sì, esatto, in quel senso. Che a sua volta. Evochi una creatura che a sua volta fa un incantesimo. Che a sua volta fa un incantesimo make wall. Però il fatto che deve averlo preparato. Ne faccio. Fatto è quello. Cioè dovrei sapere il suo nome, chiamarla. Dirle di prepararlo, dismissarla e richiamarla con il suo nome. Ma non potrei semplicemente chiamarla, chiedergli il nome della creatura e poi la rievo. Beh, sì, ma perché dovrebbe dirmi il suo nome? Di solito si fanno tipo degli studi nella torre per giorni per sapere il nome di una creatura outsider. Ah, no. Dì, se non lo fa la capo di mazzate. Tanto non muore. Non muore. Già, hai detto nel suo piano si fa zero. Sto guardando se c'è una cattura che ce l'ha di default nel cool. Non c'è un caster, non c'è uno che fa di divino spontaneo. L'oracolo. Che problema allucinante. Combatte un po' nerfato il barba. Un po' nerfato senza arma. non ho equipaggiamento. Non so se. Beh, potevo usare l'arco composito o la repubblica. Tu c'hai un kunai? Questo sia direzione. Beh, meglio di niente. Sì. Un'arma di scorta. Meglio di niente. Non è un'arma improvvisata, non prendi meno 4 almeno. Fa cagare. Io l'ho preso come... perché ci stava nella mia storia. Se no... Scusa, meglio di niente. Simone, cosa vuoi? Poi tu c'ha pure un range critico alto. Cosa vuoi? Quanto è quello? 18.000. Parecchio alto, sì. Però non vabbè. Vabbè, sì, te lo posso affilare. Te lo affilo con la magia. Barbaro usa il kunai. Miseria 15-20. Non si può usare due mani il kunai, Diego. Barbaro carica col kunai. Se è light, no. Se one hand, my light, quindi. Senti, c'è tanto che ti presto. Beh, meglio di niente. Se non vuoi il kunai, me lo tengo. No, no, meglio rispetto a prima che dovevi combattere con le armi naturali. Ma tu che armi naturali hai? Ho due claw. Due del claw, comunque. Non so, due claw al massimo del bonus o un kunai. Quanti attacchi fai? 3 più haste. Meglio alcuna. Io mi tengo anche la riposizione nel dubbio perché. Senti, se non lo vuoi, me lo tengo. E poi è bellissimo il kunai, è la mia arma preferita. E allora facciamo così. Quindi sono 24. Ricordati che è prestato. 15, do due monete d'oro siamo pari. 15. No, non lo devi pagare. 10. Ecco, bravo, calcolati magari 18, per 20. Colpire. Cosa fa il kunai? Un D4? Sì. Vabbè, la mia faceva 2D4, non è che ho già se molto di più. D4 più la forza base, non la forza 1,5. No, anche se ci metto Power Attack, però dovete levare di più. Power Attack, però non sono una volta e mezzo la forza. No, sono la forza. Sì, sì, sì, esatto. Cioè, dico. Quindi non è 28. Sì, sì, fatti i tuoi calcolini. Senza problemi. Quindi, Danilo, per ora risolviamo così questo kunai. Grazie. Un ottimissimo. Simone, non sputare il piatto in cui lo mangi. Se mi rompi il kunai ti rompo la testa. Se mi rompono il kunai poi inizio a muovere le mani. Lo multiclasso. Lo faccio monaco. Un barbaro monaco con le mie. Col nuovo sistema, sì. Che, vabbè, mi dell'unchained. Tu tipo mi gira e inizio a fare 10 attacchi così con le armi. Va bene, Danilo, stai facendo qualcosa in particolare? Sto cercando se c'è una creatura evocabile che può usare nel tuo. Non credo. Tu l'hai già cercata? No, ma. Inefficiente allora. Comunque, qui il mio Summon Monster Handbook, che è tutto il contrario dell'inefficienza, con ogni livello, con tutte le spell-like abilities. Faccio ho selezionato 4 solo più. Esatto, 16. Però io ho selezionato solo i mostri che evoco. No, 23. Vabbè, dai, un po' di anni. Cioè, no, non ho selezionato solo i mostri che evoco subito. Ce li ho tutti e vediamo se ce li ho, ma non credo. Vabbè, non sono i pochissimo comunque. Vabbè, faccio un D4 più 23, invece che 28. Beh, chiaramente. Una misa di noto, un giallo attorno a un summon mostri troppo basso. No. Comunque ti stacca anche una trave se funziona. Chiodata. No, non c'è. Non c'è, però. No. Più trave chiodata. Non si può fare make wall con i summon. Giustamente non lo prepara. Dai allora, che sono le 21.37. Esatto. Procediamo? Sì. Però andiamo col kunai. Vabbè. No, ancora improvvisazione di sottovalto. Guarda che non hai arma improvvisata. È meglio. Non usare arma improvvisata a due mani, ma anche lì meno 4 a tiro per colpire. L'ho già segnato. Sommerei 20, 11 e 6. Punto. Vabbè, io ce l'ho nel dubbio. Okay. Una trave se la c'è, una trave. Questo. Vabbè, considera comunque che non c'è Giorgio, Il CR dei mostri. Cosa considerato? Considera che non c'è Giorgio, che è il barbaro. Considerato per. E il barbaro è inutilizzabile. Ritenerlo irrilevante. Allora stai zitto. Dormiamo nella casa, però facciamo un turno di guardia. Così faccio la guardia con il mio pericolosissimo. Cos'è la PA? Power Attack. E OCD? up close and deadly. Perché me l'hai tolto? E perché se fai un attacco tipo dove c'è un immune precision damage. Ah, giusto. Non avverrà mai. Dormiamo nella mia magione, però facciamo i turni. Va bene. Ok, vai i turni cosa? Davanti alla porta con i guanti, perché me la passa quella. No, no. No, quei guanti serve quando poi usciamo. Quando usci, va bene. Facciamo dei turni, dormiamo magari tutti tipo nella hall, tutti insieme, e uno e si fanno i turni. Ci mettiamo e raccontiamo storie di paura. No, dormiamo, io voglio dormire. Sappi che ti stacco la gamba del tavolo. Vai. Sì. Se so che vengono portati fuori le cose, se no. Le cose perdurano? Una volta uscite la gamba del tavolo. Perché no, una dimensione parallela, no? Non è che si ricrea ogni volta. No, non credo. Una trave bella grossa, eh. Non conosco l'incantesimo nel dettaglio, ma facciamo di sì. Una trave media. E me la metto dentro la schiena. Ok, mi sveglio e vedo che il mio tavolo è stato scempiato. Ma che diavolo! Anzi, mi prendo 4 le gambe, così se ne rompe la mano. Ma dove sono le gambe del tavolo? Sodoma? Hai visto chi le ha prese? Ci vede dopo con le travi abbracciate. Ah, che dorme con le travi abbracciate. Okay. Con la bava sopra. Scherzavo. Ah, ma tienitele. Con le 4, sì. Tanto è dell'IKEA. Ok. Dell'IKEA. Facciamo una buona colazione prima di uscire. Stasera ceneremo del latte, conviene. Sì, stasera ceneremo del latte. Ceneremo del latte. Siamo già nel latte, se non te ne fossi accorto. Quando ci sono arrivati? Quando siamo inerpicati su un albero popolato da poveri esseri morti e non morti che si articolano sul suo tronco. Il signor Barbasso mi sembra così gentile, non pensavo fosse una base di... So domani, sì, spiega. Lui è la mosca bianca. Ti prego, scendiamo giù, gli chiediamo l'arma in prestito. Non c'hanno armi. No, i Nightshade no. Poi sarebbe un po' grandina per te. Che devi schifare il mio kunai? Non è che schifo il kunai, che mi fa vedere il fatto che... Lotta interna al gruppo. Che beh, perché tu non la forza. Usare gli archi come armi improvvisate comunque. Ma infatti ce l'ho segnato un arco composto. Prendi un arco e glielo... No, cioè... Che figo! Volendo. No, ma io mi... C'era il più uno. Chiaramente sì. C'è stato. Ho visto illuminarsi il suo sguardo, ma... Comunque mi sono preso un arco composto più uno da te. Va bene, ce ne erano 4. Beh, uno qui. Quattro, le giornate con tu archi da. Le ho tolte solo per la scelta. Soldi comunque, no. Ma le abbiamo. Le ha preso uno di questi. Sì. Io ne ho preso uno perché volevo usare. Va bene, ok, cosa fate? Dai, dormiamo e la mattina siamo già dormiti, rialzati, ok? Prima di uscire. Controllo. Grazie. Cosa vedo? Sì. Sulle scale. Fai la prova di perception. Ma solo lei vede quei guanti? Se lo vuoi adesso non. Vediamo. Se li metti su, sì. No. Perception 19. Grande. 20, 21, 22, 23. Ok, un attimo che devo aprire 4. Sorry. Faccio anche sense motive, dai. Eh no. Perché? È così. Ma per cosa? Ho fatto 15, guarda. 15 più 16. Non credo che... Mi dici 31, ma non so se... No, sense motive. No, non ti piace, Dodo? Anzi, Master Wayne, sorry. Comunque ho preso 4 tavoli, perché posso tirarle e incendiare le cose. Posso vedere di fuoco le queste. Quando hai fatto? Ah, yeah. 20... Mi faccio danni delle... Le gambe del tavolo. 23 perception, 31 sense motive. Cioè. E che ne so, magari qualcosa in più. Ok. Ritreno un legge parlo. Vedi che in cima nella stanza, in alto, negli angoli, ci sono 4 retriever, che sono i ragni che avevate affrontato nella giungla. Ma che schifo, ma porca di pronti quella. A colpirci? Che cioè io sono un corvo però, qualcosa. Però in effetti i corvi se li mangiano i ragni? Sì, mi sono dormito un po' qua, che qualcuno ha preso precauzioni comunque. C'erano dei nemici verosimilmente nella base da qualche parte. No, ma infatti me l'aspettavo però, come sai, non potevamo rimanere fuori. Riferisco dei... Dei ragni schifidi. Non sai se li hai visti tutti comunque, chiaramente. Beh, dico quelli degli angoli, immagino. Non posso usare però usciamo di Dimension Door. Per portarci tipo... a caso. Qui e in cima non sapete se ce ne sono anche in altre stanze, magari state un pinguato. Esatto, tutto cioè per... tanto per poi scappiamo. Tanto per allontanarci. Ho capito, però noi dobbiamo proseguire. Possiamo andare continuare con le Dimension Door, lasciarci delle spalle, ma loro ci seguono. certo, non sanno dove siamo andati, ma quantomeno si potrebbero dividere. È quello. Se noi entriamo e usciamo da questa, da questa porta dimensionale, si può fare. Cosa? Nel senso, se noi adesso entriamo, questa è una porta dimensionale su un altro piano, no? Esatto. Questa porta potrebbe restare, nel caso qualcuno... Resta. Morisse. Resta 2 ore per livello. E perché dovevi stare dentro questa porta? Beh, perché se perché dobbiamo... Perché 9 sono già passate. Sì, ma perché vuoi farla restare? Stiamo là. Per tornare eventualmente, ma io posso ricreare... Hai ancora altre... Puoi ricrearla all'infinito. No? Posso ricrearla in un altro posto. Con lo stesso incantesimo. No, più che altro perché siamo messi un po' malino, cioè... No, per ora siamo full. Sì, no, ma non abbiamo l'arciere. Sì, beh, siamo un po' malati. Tu hai la... Hai un'arma, però non è la tua arma. Beh, poi dai, poi per questo non... Sì, beh, messi male siamo messi male sicuramente. Faccio comunque un D4 più qualcosa. Soprattutto quindi, contro sti 4 ragnacci. Poi vabbè. Giorgio, minchia, facciamo un sacco di danni ranged. Vedi che ho fatto bene a prendere il cambio. Vabbè, andiamo Sodoma. Apriamo, ma andiamo Sodoma. Sodoma. Sì, ti direi comunque che era una buona idea la tua. Cioè, facciamo così, usciamo. Non credo che si tira l'iniziativa, perché noi lo sappiamo. A meno che non ci siano altri che non hai notato. Abbiamo anche loro preparato un'azione. Che ci fanno il bel raggio cattivo, quello che ti pietrifica. No, non fanno. Non l'ho fatto solo per dimostrare cosa faceva George. E poi, ok, e possiamo fare così. Come dici tu, ci teletrasportiamo alla fine delle scale oltre la porta. Esatto, quello che avevo così pensato. Loro non sanno dove siamo andati. Sì, sì, intendevo se ci sono nemici. Proseguire. Se ci sono nemici dobbiamo poi affrontarli entrambi. E se fai, scusami, se appena riusciamo a fare un wall e ne blocchi, che ne so, 2 e poi gli altri 2 li killiamo. Sai, non è una cattiva idea, nel senso che potrei fare un wall sulla porta. Non ci interessa, però una volta che noi facciamo il Dimension Door io poi non posso fare più niente. Capito? Vero. A meno che lei non porta tutti, ma non credo tu possa portare ne tutti. Ne ho 2 però. Lo so, però. Quanto è lontana la porta? Non lo sai, le scale vanno su fino in alto, non l'hai vista lui. Senti, usciamo e rimassacriamo. Però l'altra volta che dovevo portare la ragazza, la cantrice... No, però posso sammonare dentro, ancora meglio, no? Si sammono dentro attaccati. E usciamo con tutti. E faccio urlare, sì, potrei... anche baffarvi, in effetti. Infatti. Vabbè, ma ormai, scusa, siamo mi qua... Mi sembra uno scontro difficile, visto che l'avete visti. No, no, infatti. Va bene. Combattiamo, quindi? Non uno scontro difficile. Nessuno si tira indietro sulla mia nave. Visto. Cioè, per dei nemici che fanno 4 clove e 4 clove e un raggio come fiato. Ho detto la mia nave. Beh, sono forti, no? Quello. Master Wayne. La mia nave. E che ma sono? Ma se invece ci vanno dentro la formazione, dove ti porta? Cosa? Lo stai dicendo? Ho detto nessuno si tira indietro sulla mia nave. Non credo funzioni. Mia. No, non può uscire, immagino, no? No, non funziona. Quello strozzo di Yuka e Shep non avrà la credo mia nave. Non posso uscire, non lo so, ma io non imperagassi queste cose. La prenderò un giorno, nel senso. Pregato, no, la mia idea era sulle scale, cioè non era dentro la maggiore. Te lo dimisci qui dentro e ti muovi di... Allora. I buff da fare, prendiamo la tavola dei buff. Ce l'abbiamo la tavola dei buff. Allora. Allora, il tuo kunai diventa affilato. Inese. Ok, così mi piace. No, scherzo. Che diventa 15. No. Così diventa 15-20 se era 18-20 normale. Cosa? Si diventa affilato. Da 18-20 diventa 15-20. E tu cominci a volare. Il barbaro. Sì. Sei sicuro? Meno che a volare. Piuttosto che tenerti per terra. Guarda, tanto serve solo per fare il tiro, serve solo per fare mosse particolari. Aspetta, ma quindi posso anche per stare anche per stare fermo. Facendo fly ti togli un incantesimo tu, no? Sì. Lo posso fare io, no? Sì, fallo tu, fallo tu. Grazie. Okay, niente. Meglio. Allora, fly. Ah, allora posso. Vabbè. FLA. Mi pare, pare che non vedessero l'invisibilità, giusto? Da quello che mi ricordo. Mi ricordo neanch'io, ma mi pare no. Nell'ultima battaglia non... Nell'ultima battaglia tu eri invisibile, giusto? Ero invisibile. Sì, eri Vanish. Non mi ricordo, giustamente. Scusa, vabbè, mi rendo invisibile. Non mi ricordo se c'è sto casino. Tu come fai? Non sei invisibile. Tu non sei volante. No, non volo io. Perché sei un corvo. Allora, sono grande come un umano. Pensa che c'ho la scimmia invece calava. Ho Abbiamo un corvo che non sa volare, ma una scena che parlava. Che ci devo farla? Ok, poi mi casto Sea Invisibility. Anfer. Su di te lancio. No, se la casta Ace lo casta tutti. Enlarge person. Sì. Enlarge person vuoi? Okay. Ah, ci sta. Enlarge person. Ma scusa, non ci arrivo senza mi fai fly? Quanto è alta la stanza? Se mi enlargia riesco ad arrivarci a portata? Allora, Sea Invisibility, Keen Edge. Così diventa ancora più difficile volare, grazie a me. Ma conviene fare enlarge person? No, sì. Infatti no, perché il tuo dovrebbe solo aumentarti il danno dell'arma. Infatti, lasciamo stare. E la portata, però, vabbè, tu i puns. Lasciamo stare. Perché devo volare. Mi lancio Anticipate Peril. No, scherzavo, non ce l'ho. Mi lancio Invisibilità. Scusate, Lancio Tactical Acumen, così prendete tutti più due se fiancheggiate. Cosa difficile in questa battaglia, ma vabbè. E poi lancio Haste. Peso sito 3. Scusi qua, stupi 3. Più 3, non più 2, scusa. Si fiancheggiamo, giusto? Mm-hmm. Okay. Prima di uscire, direi che facciamo un bel Summon Monster. 12. Lo buchiamo Dio. Non so se fare Summon Monster 7. Ah, una cosa, su di te faccio Heroism. Che dà più 2 e tiro per colpire i danni. Mi piace un sacco questa cosa. Perché non me le fa sempre? Perché è una risorsa che uso adesso che sei mezzo. Cioè, praticamente ho il tiro per colpire più alto adesso rispetto a prima, quasi, cioè, lo sai. Questi tizi volano, se no. Cioè, stanno su, però quindi ci vogliono dei volatori. O qualcuno che sa arrampicarsi. Qualcuno che sa arrampicarsi. Altri ragni, yeah! Che bello! Il mio scoiattolo sa arrampicarsi. E utilizzo un tuo scoiattolo che ti dà. In effetti il tuo scoiattolo ti dà più tre poi per volare, che non è una stupidata. Evocherò dei bralani. Poi ha 14 di intelligenza. Questi qui sono anche immuni a mind affecting. Sono più intelligenti di me. È il doppio di intelligenza. No, non lo so. Io ho 8. No, sì, 2 punti più intelligenti di me. Fai te. Scusate, scoiattolo poi vola. Tranquillo. Fa così. Dopo che mi baffa va di nera. Ho finito la mia strategia. C'è un musetto così. Basta, mandiamo lo scoiattolo contro i ragni. È affatta. Devo castare su di. Va bene, dai. Evocherò dei cazzo di bralani e via. Questo che... tipo bello adesso. Degli altri ragni, dei delle ombre che si arrampicano. Delle ombre che danno meno 4 ai. Dai, evoco dei bralani. Ok. Evoco un Summon Monster 6, dai. Un dado da 3 più uno di bralani. 4 bralani. Usciamo, Danilo. Arrivo. Se c'è gente che non abbiamo visto, ci devi fare un attimo. Ah, devi prendere la... Ah, giusto, la... La lavagnettina, scusa. La lavagnetta. Aspetta, posso anche questa. Ci serve la lavagnetta, Danilo? Sì, dai. Ci stanno, sì, ci sta. Vai. Ti ricordi sulle mune mind affecting? Dai, sciuttiamoli sti qua così vediamo sto boss se c'è. Usciamo. Che li dispongo? Quanto è grande il corridoio? No, allora. La stanza... Fai tu. Sì, questa è la porta da cui siete entrati. Ma non c'è un corridoio. Siamo messi nel corridoio. Quale corridoio? Delle scale. Delle scale, no? Cioè, loro sono appostati nelle scale, suppongo. Ah, no, era nella stanza, non era nel corridoio delle scale. Ti ricordi? Ah. Sulla porta l'hai messa dove ci sono le scale. Ti ricordi? Ma scusa, ma se non ci va a sbattere scendendo le scale? Non mi sembra. Allora. Ci passa oltre. Qui c'è il corridoio. La porta è qua. Io l'ho messa qua. Se hanno trussing, o vedere invisibilità l'hanno no, ma... vista. Ah, se no, no. Cioè, nel corridoio, dei... cioè, per le scale salendo, cioè, ho capito, qua sono le scale. Ah, ok, ho capito adesso. Cioè, se dei demoni l'hanno hanno trovato la porta contro Sing o visita vedere invisibilità, fanno l'appostamento. Altrimenti, se sono in questa stanza, non ci vedono. No, infatti. Però non è che voi l'avreste vista a questo punto. No, certo. Vabbè. Allora, fai che sulle scale. Facciamo che l'avevano vista. Ok. Fai che sulle scale, se no. Ok, usciamo. Ma uno poteva entrare volendo. No. Ok. Allora sì. E perché avevi fatto la guardia? Perché poteva arrivare il fantasma. Quanto è ampio? Ah già, è vero. E... sì, così come... No, aspetta, 3 quadretti. Fanno magari pari. Adesso 3, 3, 6, va bene. 3 quadretti. 3 quadretti, va bene, sì. Vabbè. Si va bene così. E loro sono su in alto qua. 2 e 2. Così? Sono large o medium? Erano large. Che palle. Ci stanno? 3, 3. Diciamo che sono medium. No, sono large. No, dico per disegnarle. E quindi? E l'altro lo metto qua? Sì. Okay. Questa è la luce della stanza. Che angustia! Per quello non ce ne sono di più, magari, no? Ragno 1, ragno 2. Cioè, questi qui stanno piantando, c'è il passaggio, magari, no? Sulle scale proprio. Devo aspettare voi. Consiglio di fare un po' senza griglia. Dai, io esco e mi metto qua. Sì, infatti, facciamo senza griglia. Ok. Allora, posso agire? Iniziativa. Ah, scusami. Dobbiamo vedere se agiamo prima di loro. Una schifezza proprio. 17 più 17. 34, dai, 10 per primo, già capito. Iniziativa, Danilo? Sì, sì. Sto cercando una sistemazione. Sono in sessione d'esame per quello che vedi i libri a montagna. Non è quello il problema. Voi avete tirato l'iniziativa? Sì, ho fatto uno schifo. 34. 11 addirittura. Ok, ricordatevela, ditelo a Danilo. Vai, vai, vai, Danilo! Io non so, faccio tanti per critici col culo. Ma il cunai cos'è? Per due? Sì. Sì, non lo sì, per due. Per solo per matita. Peccato. Matita, a te. Fosse stato un bel per tre, sarebbe divertivo. Lo usavo come una fissa. Peccato. Potrei fare Weapon Focus, che pirro. Potevo usare tutta la notte a usare il kunai per... Dai, veramente, cavolo. Cosa potevi non fare? Potevo stare tutta la notte a allenarmi col kunai per prendere Weapon Focus. Non funziona così, che devi passare 24 ore con la stessa arma. Che cazzo hai? No, mi ricordavo una cagata del genere. Poi forse era in D&D. No, sì. Ti piacerebbe però ancora. La scegli e basta. Quella è. E ma una volta che l'ho scelta non puoi più cambiare. Cioè devi ritrainare il talento. No, devi ritrainarlo, ci vogliono settimane. Ah, ok. Una settimana, giorni, no. 5 giorni, se non sbaglio. Ok, sono un po' pochi, eh. Mm? Cioè devo segnare più nuovo, questo fatto. Vabbè. Okay, tiro per me. Vai. 15. Vai. 19 Avram, 17 i 4 Bralani. 11. Capo che sto sguardo sfugge. C'è anche Sodoma, se vogliamo. Vaca. E Sodoma. 11. Dice con me. 34. Ok, dite tutti prima dei retriever. Ok, chi vuole? Date un cazzo di cosa. Si chiama il retriever? No, non io farei iniziare a te. Se tu vai fai subito qui la dimension door. Ma cazzo. Vabbè, anche l'altra volta ho fatto gran large, vero? Sì, erano huge. Sì, è vero, mi ricordo. Perché l'altra volta... No, vabbè, sono large. Esatto. Perché io volevo mettermi qua e massacrarli. Solo se ti fiancheggiamo è meglio, no? Ok, dai, vengo lì. Ma sono soffitto o per sì, terra? Dimension door non posso. Ok, quindi devi volare e caricarli. Io ti sto facendo già volare. E tu non voli? Devo aspettare. Cioè, ti devi spostare con Puns. No, no, sto dicendo perché io volevo fiancheggiare con lei, no? Ah. Semplicemente. Solo che c'è cioè, fare Mission Dog e dei Far Fly. Non posso usare niente. Vogliamo e basta. E tu non ti ricordi, sono immune a mind affecting, cioè di base tue conoscenze sono immuni a mind affecting. Ah, ok, scusami. Hanno intelligenza trattino, sicuro. Quanti incantesimi posso fare per round? Tre. Ah, tre? Figo. Cioè, non dovresti sapere. No. Poi ho fatto più male l'altra volta. Quanti incantesimi posso fare per round? Vabbè, strutti. Infatti sono in faccio una prova per quanti volare io. Quanti incantesimi posso fare per round? Uno. Dipende. Faccio una prova per volare. Uno, perché dipende, no? Per arrivare lì, se ti muovi a meno... Per volare faccio oddio, si devi volare a un angolo maggiore di 45 gradi, quindi si devi fare la da prova. Terra volare devo caricarlo. Ormai, dopo che lanci l'incantesimo... Sì, ma devi fare... Devi, si vola con un angolo maggiore di 45 gradi. Quindi posso lanciarne in due in questo caso. No, tu l'hai già fatto volare dentro la... Se okay, devo caricare... Voi tutti volate, anziché muovere volate. Per volare con un angolo maggiore di 45 gradi fare la prova. Non è perché perché sposti per okay. Cioè, non volo neanche, ho tirato meno uno in totale. Vola! Stai già volando. Ho meno 3, ho tirato un 2. Sono... Ah, hai meno 3, lui ti dà caster level comunque. Ah, cosa? Io tu non gli dai metà del caster level. Sì, sì, sì, certo. Ma lei me l'ha fatto. Che è 6 però. Ah, comunque 6. Ah. Comunque facciamo che East l'ho lanciato come ultima cosa, quindi abbiamo perso un round. Okay. Ho tirato 5 in totale, quanto fu? No, sei obbligato a spostarti a 45 gradi. Solo che... Cioè, non c'è. Forse puoi andare da quelli di là. No, infatti è qua, dicevo che volevo andare da questo qua. No, là. Vabbè, è uguale. Sì, beh... Ci arrivo? No. No. Non basta 45 gradi per arrivarci. Neanche se mi muovi basta? E puoi arrivare alla parete e tipo ti sei alzato di un po' il prossimo round. Se fallisci ancora ci arrivi comunque. Grazie. Dai, magari viene lui da te. Speriamo. Visto che sei di succoso. Ok. Sono i rinieri, ovviamente. Fate? Quindi non hai potuto punzarlo. Ma scusa, non puoi punzare questi che fai meno di 45 gradi? Ma non penso, perché cioè, è molto alta e stretta questa... Ok, allora vabbè, caricare ci vuole... Beh, però si può alzare di più da quelli. Da R3. Sì, ma mi sembra uguale. Cioè. Vabbè. Ho pensato fossi dentro. Ok, suo turno è andato? Sì. Chi vuole agire? Vado io, se volete. Sì. E io volo, a prescindere. Anche tu dovrai fare la prova. Ok. Beh, tu vai... 17 più 14. Superata. Se la tu voglia fare, puoi farla. se faccio... Posso fare... Picchiali. Oh, vai a picchiarli. Vai a picchiarli. Okay. Posizionati vicino a uno e poi e gli fai un attacco. Allora rimetto tipo qui. Mm-hmm. Cioè, quello che vuoi fagli. Però posizionati vicino, così al prossimo turno... Bah, bah, bah. Se vuoi fargli un attacco, una magia, quello che vuoi. Ok. Posso fare Frostbite, no? Beh, l'idea. Okay. Non so se sono immuni e non letali. Facciamo una prova? Conoscenza, ingegneria... Tipo 17, non lo so. Beh, sai che in generale i costrutti sono tutti immuni. Sono tutti immuni e non letali. E quindi niente, non fare Frostbite. Pitta. Faccio raggio di violente piuttosto. Sempre raggio quello violente, vai. Ok. Io lo fai prima di spostarti, allora. Ok. Devo tirare... Di 20. Di 20, no, sì, mm-hmm. Sono 5. Sono 3. Lo fai? Ah, su. R3. Vai. Cioè, concentriamoci uno alla volta. 16. Ah, allora. Dove sei andato? Io sono andato qua. Sempre, io lo chiamo Power Attack, però. Non posso fare Ragnar Strike. Ragnar Strike, sì. Allora fai faccio... R2. Ma in questo caso non si... Ah, picchia R2? Sì, così ah. Uccidiamo uno, no? Vero Giulio? Sì. Aspetta, te, picchia R2. R2. R2, dai, su, dammi. Ok. Sei qui? Sì. Vabbè, ma non disegnare tanto in... No, non disegnare. Ok. No, era per i raggi, sai, visto che non poteva col pensiero farlo. Un di 4. Un di 4 ti serve? Sì. Ecco qua. No, scusami, un di 6. Un di 6. Perdona. Non mi sono scattato il naso. Lancia due volte uno di quelli. Ah, tieni. È andato, ne ho già rubato uno. Perfetto. Grazie. 4, 4, 8, no, 12, 11, 12. Ok, secondo attacco. Sempre solo da secondo sì, raggio. Sì, vai col secondo. Ma hai fatto per colpire. Deve farlo. 2 più 1. Colpito. 21 adesso, no? E 16 più devo fare. Ma così tanto sommi, sommi un po' meno, non tiri touch. È solo la tua destrezza, scusate. Però comunque un po'. La tua destrezza è tuo VB. 3 più 9, 11 più 5. 5 colpito, dai. 6, 12. 12 più 6 fa 18. 18. Bene. Ancora... Okay, sì, un altro. 7, quella prima, quindi l'ho colpito. 11, 11, 18, 19, 20. No, 18, sono 19. Okay. 10, 16, 18, 16, ok. 18. Grazie. Magari anche tu la ti la dadi tra poco. Sì, sì. Sì, sì, però abbiamo tempo. Ok, tocca a Damasco, vai Damasco. Tocca a me? Sì, shottalo. Cioè, io devo per forza usare Damasco la mia app tiradadi. Esatto. Tu. Guarda che la tiradadi fai tiri in meglio, quindi se sei sfortunata è meglio. 3. 3 più... Dov'è? 18. Colpito. Ma dash sempre. Sì, esatto. Sì. Vedo quello. Quindi devo fare con questa cosa schifissima. Stai colpendo, scusa. R2. Okay. Oddio, no, stai, sì, no, sì. No, sì, sì, R2. Devi fare quello normale perché loro non sono niente. Stai usando power up. 28. Cioè, power up gli alien, no? 28. Okay. Fatto default, giusto? Sì. Ok. Top, vai. È bello come... C'è haste, quindi ne ho uno in più, vero? Sì. Brava. 16, l'ho preso. Solo il raggio rovente, non hai fatto, non sei andato ad attaccare poi. Sì, si è spostata. Mi sono spostata. Prossimo turno attacca. Ok, va bene. 33. Grappoli grandi, illimitati. 14 più 10 l'ho preso. 35. 35. Quanti anni fa? 10 più... L'ho preso 20. 32. Aspetta un attimo. Sono tutti i miei dadini. Adesso vedi chi ne ammazza anche avevo uno, quello che avevo io, non riesco a parlare. Allora, quello prima era morto. Cioè, quindi quasi gli ultimi danni che hai fatto quanti erano? Falli su R1. Gli ultimi due, 32, 35. No, l'ultimo. 32. Che gli l'hai fatto? Era su R2, ma se R2 è morto lo faccio su R1. Adesso io quello qua, poi devo andare fino a fuori, dai. Ok. Quinto attacco, giusto? Sì. Quinto e ultimo. C'è l'haste di suo. Ma l'ha già fatto. L'ho già fatto? Cioè, ricordiamo come ho già fatto? È il primo. Fatto il primo. L'hai fatto per il secondo. Devi fare i primi due. Allora devo fare, fare il 5. Sì. Allora. Il 6? Sì. Ah. Sì. Quindi 3 di AB. Ma no, scusa, come fai a farne 6? 1, 2, 3, 4, 5. C'è anche la pit shot per quello. In ogni caso sì, sono perché 5 sì, qua. Sì, c'è anche la pit shot. 5 qua. Male. Quanti vabbè, vado, quinto attacco. No, picchio che 3. Perché se no mi devo spostare. Alla fine fa 15. 15. 15. Colpito. Colpito. Se non fai uno, 31. Mi sempre. Adesso l'ultimo attacco. Posso chiedere i dadi da 6 di prima? Certo. Mi hai fatto un sacco di buff bellissimi. Non penso poter usare. Vediamo. Quanti durano? 12. Vabbè, alcuni tanto. Io per colpire? Sì. Colpito. Una è affilata. 33. Il cunè è affilato. Quello dura. Ho un cunè di Naruto. Sono potentissimo. Allora? Alla fine non mi serve. Ok, scusa. Devi i miei di dargli. Ok, vai Abram. Allora, i miei quattro bralani fanno tutti Lightning Bolt su... R3, chi è che è stato ferito? R1. Però forse è meglio lasciarlo. No, ma Lightning Bolt, cioè, è forte perché puoi farlo anche che va... Cioè, colpisce più nemici. Ok, sì, sì. Si portano in alto e fanno Lightning Bolt su R3 e R4. Ok. Un solo tiro per colpire per tutti? Sì. No, Lightning Bolt... Ah, non c'è il tiro per colpire, c'è solo riflessi... Aspetta, cioè, se devo fare io il tiro salvezza riflessi. C'è un riflessi di mezza? Sì. Ok, allora... Primo Lightning... Lo fanno tutti e quattro. Un attimo, faccio per il primo. Fate la DC. Per ora. Lightning Bolt è 15 solo. Ok. A cazzo, un 1. Ottimo. Quindi R4 fallisce. R3, 1, recupera. Recupera. Recupera. Recupera. Ok. Fallisce. L'ultimo la fallisce. Ah, li stai fallendo tutti, bravo. No, la fallisci solo due con l'ultimo. Cioè, sto facendo tutti, sì. Con quattro, no? Mm-hmm. Devo fare l'ultimo. Cazzo, due venti. Ok. Ok, l'ultimo lo fallisce due volte. Ok, il primo sono 25 danni totali. Con la diminuzione. 25 diviso 2 sono 12. E mezzo, sì. Quindi 12. 12, perché ha fallito il secondo e il terzo, tipo, mi pare. Cioè, scusa, no, ha fallito, non è vero, ha fallito il primo e il terzo. 25. Il secondo sono 18 danni. Totali? Sì, questo era un 5. Quindi 6, 9. 9. 9. 11. 11, 11, 21. Grazie. 11, quindi 21. Il terzo sono 21 danni, totali da dimezzare. Sì, adesso faccio un attimo. 11 e 21. Ok. 12 più 4 22. Già, 22 in tutto? Mm-hmm. Ok, 22. Sicuro? Sì. Ok. 10. Il quarto sono 22 danni. Già segnato. Basta, ok, quindi 25, 18, 21, 22, tutti quello con di mezzo. Ok. Contando io nella mazione non faccio niente. Sì, non faccio niente. Procedete. Tocca a me, quindi. Mm-hmm. Devo fare. So, posso, scusa, posso ritrattare? Faccio un volo wise. Dove? Qua. Minchia, un casino, però io non so dove sono. Io non so dove sono. Sì, ma occupa tutto. Ho capito, ma no, sono qua, metà, sono qua. Dall'altra parte, l'altra no, metà. Siamo di qua noi. Siamo tutti di qua. Sono tutti su R1 loro. Cioè, perché c'è lei che ha picchiato ed era qua. Con R2, sì, lei mi ha finito. Io ero qua. Damasco era qua perché era in mezzo, era sparato. Vabbè, e lui, cioè, sarà qui. Faccio un volo vice qui accanto a Damasco. Così loro lo possono distruggere con i raggi, ma non attacco. Cosa fai così? Fallo così almeno. No, sì. Perché è troppo vicino a loro. E quindi? Hanno un reflex save per distruggerlo. Per passarci a più. Ah. Fallo più vicino a me. Così? Ok. Il mio muro di fuoco me l'avete bocciato, ma era vero. Sì, sì, un attacco vien giù. Muro di fuoco non so perché sia scarso, cioè non l'ho mai letto. Ok. Allora, era uno che è vicino? Cioè, qualcuno proprio a portata, cioè subito? E io non so quanto... Direi che con un passo a metro e mezzo ti becca circa. No, ma forse no, lui è vicino io o lei, R1. No, perché lui è andato lì volando, lì in cima. Quindi. Vai! Adesso, cioè, c'è anche la portata lì, no? Vai, vai. Gozza è barbaro. Quindi fa il full attack. Aspetta, io sono a portata? Cioè solo lui ha range, non io? Sì, perché lui c'ha reach. Ah, ok. Feet. Lui dava un tacco con le sue chili e il suo morso. Prima il morso. Guarda che il kunai se me lo... Anzi, no, prima le chili. No, questo qui non compro le altre. Bravo. Ah. Ok. Stai come and get me? Sì. Ma non posso farlo, penso, sì. Non lo vince. Ah, giusto. Cioè, per quello te l'ho chiesto. In effetti era una buona tattica per invalidarlo, quello. Tenere sempre il mostro un quadretto indietro, così non riesce a fare il cannon getting. Però con il lung è facilmente aggirabile. Sì, bene, non l'ho mai preso. Ok, lungo. Colpisce una 29. Io la voglio, se più di 20 colpisce. Ok, va bene. Sì, come al solito. Standard, diciamo. Sì, il barbo che già 20 dice è già tanto. 16 danni. Segniamo. 12 danni. Nove danni. Minchia, per fortuna basta il 2. Basta non fare uno. Dai. 14 danni. Poi ti fa un raggio di... Ho già su 39 danni. Come cazzo me ne frega? Raggio di freddo. Fai anche io salvezza riflessi. Uno dei suoi occhi c'è un raggio polare. Ho fatto un 20. Che ti sfiora la guancia. No. Cheese, sono di fuoco. E accendo le braccia. Sì, le accendo le braccia. Ti guardo il kunai. 9, profondo. No. 9, e, 9, 18, no. 4, 22. 22, 6, 28, 5, 32, 3. 33 e 6 39 diviso 2 okay. Cioè hai reso? Sì. Sei sicuro? La volta non avevo detto di sì, però sai che... Perché era senza schede quando mi sa che abbiamo fatto, esatto. Ha detto che c'era evasion. Solo cerco. Non sono sicuro c'era evasion. Vorrei fosse un rage power. Se evasion non ho tirato per niente perché vedi il danno. No, ce l'era su era su D&D, non su Pathfinder, mi sa. No, figurati. Evasion Witch, livello 5. Ma tu non hai preso archetipi, vero? No. No, è solo archetipo. No, non ce l'hai, Evasion, no. Plasma Warrior, Drip Power, Cane Dodge, Crop Sand, Drip Power, Improve Cane Dodge, diviso 2. No, non ce l'hai. Non ce l'hai, non ce l'hai. Niente. Ah, 39 diviso 2 fa 19. Ok. Ok, e ti morde. Mm-hmm. Ti colpisce, anche continua a tirare molto numeri sotto il 4. E ti fa qua 8 danni. In più prova a tirarti con sé nella lotta. No. 30 CMB. Ho 33 di DMC. Allora fallisce. Ah, aspetta, gli altri un bonus a grappolo, sì, ce l'ha. No, 34. Cazzo. No, ho Ace. Ace, è vero. 34, quindi ce la fa lo stesso. Ce la fa lo stesso. No, però sì, ce la fa. C'ho... Niente, così mi fa un cazzo io. Non c'hai più niente. È finito. Sì, perché c'è improved grapple. No, non è vero. Boh, perché c'ha? Boh, sarà fatto un mostro, però. C'è scritto qua. Vabbè, c'è scritto. A grapple. Poi scusa, perché tipo la CMB è più alta del tiro per colpire? Come cazzo è possibile? Sono anche la... No, destrezza. No. Boh, non lo so. Avrà dei bonus. Magari è sbagliato. Magari l'hanno scritto sbagliato. Dai, in grappolo. Intanto c'è il kunai, puoi attaccare in grappolo. Ho contato anche se fosse stato così, quindi... Tanto puoi attaccare col kunai. Non so. Più forte adesso. Tra l'altro, essendo tu in grappolo con un mostro appeso, non è che gli far prove di volare, direi, no. Beh, no. Ma cosa fa a cadere, ti pare? No. Ma dai, quindi io posso... Se no devi spostarsi per forza, in teoria. Quindi, mi sembra che una io adesso posso picchiarlo col kunai e fare anche una claw in più, volendo? Eh sì. Faccio quindi 5 attacchi. Figo. Faccio... Dai, ti tocca. Tocca a voi. No, scusa, tocca ai ragni. Ah, giusto. Tocca agli altri ragni. Gli altri due ragni colpiscono il muro di ghiaccio. Quanti DF ha? E Arnes? Pochi. Zero. E beh, per sapere, sono giù con un colpo. Va bene. No, però poi sai cosa? Devono far giù due pezzi, no? Ciascuno, perché loro sono l'altro. Eh sì. Ah. Però possono shrinkarsi. Ma per uscire, shrinkarsi, non lo so. Mm. Non fanno i raggi? Da lontano? Ah, giusto. Dai, facciamo anche fanno... Vero, mica, fanno un raggio con la free action, giusto? No, un raggio diciamo di caldo anche. Quindi non... Fire ray dai no. Lo fanno per distruggere il wall? Ok. Io su 60 danni, sono tristissimo. Beh, mi sa che va giù anche perché sicuro. Non c'è Arnes contro gli incantesimi così. Cioè contro gli incantesimi le supernato non c'è Arnes di solito. Sì, sì, ma va. Quindi ok, si toglie il pezzo e loro arrivano da voi con una move action e possono fare un attacco. Fanno un attacco contro Damasco e contro Erani. Scusa. Tranquillo, non è un problema. Sbaglio sempre, dica un problema. Francese. Eleni. È come cotte cose. Ok. Tu? Ah, scusa, che poi non te l'ho chiesto. Lei uno non avvicinandosi non prova attacchi di opportunità a me e lei? No, quindi si lontani. Ah, ok. Ha tipo una roba tipo 30 PF. Ok, sì. Va giù. Ne fa 40 io. Sì, va bene. Ok, quindi fa. Okay, che abbiamo? Di cosa? Ti fa 10 danni. 38. Mm. Oh, sì, e prova a entrare in grappolo. A me? Cioè, io odio il mio lavoro. Cazzo. Quanti danni hai? Quanto hai di CMD? CMD 16. Preso. Sì, decisamente. Ok, sei in grappolo. E lo fa anche con te, chiaramente. Okay. Cazzo, che risolvo. Prima prova a colpirti. Io torno nel piano. Colpisce. Aspetta, tu quanto hai di CA? Perché io ho pensato che ti colpivo prima. Io? CA? Sì. 23. Sì, ti colpivo. Tu quanto hai di CA? 20. Cazzo. Ti colpisce. Con 2. Le super... 7, 6, 13. Dove? Danni. Ah, ok. E prova a entrare in grapple. Ci riesce tranquillamente. Anche tu sei in grappolo con lui. Bene. Ma lo stesso, no? L'altro. Grapplati. E l'altro, giusto? Tocca a me. Ho in grapple. Molo meno. Aspetta, vai. Io vado in bagno. Ma qual è il grapple, scusa? Il R3. Primo attacco con... col kunai, con l'Ace. Sì. 20, minaccia di critico. Dai. Era morto, no? Danilo, 20, minaccia di critico. Bravo. Guarda che bello. 20, quindi 20! Sai qual è questo dado, stronzo? Parla un po' di lagma. Ti sei grapplato che non mi ricordo con R1. Con R1. Quello pure messo male. Impara a comprarmi l'arma. E adesso vedi cosa ti succede. Se ne tirando io la tua. Ah, i tuoi mostri. Quanti mostri di merda. Bacchus Revenge. Sono... Non dovevi distruggere un faccio. Ora sì. Posso controbattere. Bam. È più forte in grappa. Gianni la furia. Gli spacca il culo nei circuiti. Vai, vai. Sono 50 danni. Cosa? 50 danni. Col kunai. Cioè. Grande. Aspetta un attimo. Dimmi che è morto. Sì, che è morto. E adesso lancia la carcassa contro questo qui. La tua culo wifi? Così faccio adesso. Sì, che è morto. Ah, no. Secondo attacco. No, aspetta un attimo. Secondo. Devo essere un attimo. Sì, è morto lo stesso. Ah, perché si riprendeva i piedi. Ah, fastidio. Giulie, è tua questa? Sì. E uno è andato. 7-4-2. Bravo. Cioè, puoi muoverti perché hai fatto un attacco solo. S. Grande. Sì. 7. Sì. Ace sempre grande. Ace? Sì, sempre grande. Lei a terra, giusto? Non sta volando. Yeah, io sono grapplata. Quindi sono grapplate. Ma sono grapplate in aria o a terra? Cioè. Dai, di a chi ti a qui vai vicino. E no, perché R3 forse. Sono a terra, sono tutti e due a terra perché hanno dovuto raggiungerle. Ok, allora vado vicino a R3. Che è quello di Damasco o quello di. Quello di Damasco. Non so. Questo qua mi è più vicino. Sa che siamo tutti e due grapplate. Anzi, no, faccio un passo a 1,5 metri e vado vicino al suo. No, non fai un passo a 1,5 metri. Non è così vicino. Non è abbastanza vicino. Poi tu vieni in alto. Dai, muovo. Vabbè, dai, mi muovo qua. Pure in alto. Sì, quindi. Sì, è vero. Mi muovo vicino a vicino a R3. Insomma, R di Damasco. R3 non so chi sia, è quel primo che è beccato. Io sono su R3. Okay. Cioè R3. Vado io? I miei bralani convergono... E non posso... I miei bralani convergono tutti su R3. Però stavolta usano l'arco, ovviamente, certo, anziché... Se no, colpire per la. Allora, primo attacco. Ti dico gli attacchi, mi dici se colpisci. Va bene. Ok, ognuno fa 3 attacchi. Dai, vai subito. 16 fallito. Attacchi, tipo. 16 fallito. Vai. 15 fallito. Vai. 9 fallito. Tirato 1, 3, 2. L'altro Bralani, 24. Colpito. Colpito. No, scusa, cazzata, mancata. No. Stavo ma il bonus alla forza ovviamente non si aggiunge il tiro per colpire degli archi, vero? Secondo attacco, 32. Colpito. Minaccia di critico. 17 mancato. Tirando tutti i tiri tutto al 10. Mancato, giusto? E a me 3 stai facendo, giusto? Sì. Danni. No, scusa, danni sono 12 danni. Ok. Secondo attacco del secondo Bralani. Un altro 1. Mancato. Terzo attacco, 22. Mancato. Terzo Bralani, primo attacco. Esorcismo. 4 sul dado, 16, 17 mancato. Ho tirato 3 sul dado, mancato. 10 sul dado, mancato. Con il secondo attacco, 18 col secondo attacco, mancato. Quarto Bralani. 4 sul dado, mancato. 4 sul dado, mancato. 10 sul dado, mancato. Va bene, mi ritiro. Mi ritiro. Ho tirato un 19, tutti gli altri sotto il 10. Su quanti attacchi? 12. No, su da 12. 3x4 12. Mi devo far curare? Sì. Ho tirato un 19 e tutti gli altri sotto il 10. Diciamo che tu giochi all'8, io gioco all'opposto. Poi non riesco a vincere. Dio. A chi tocca? Perché? Tocca a me. Andiamo tipo a giocare alla roulette. Tu giochi su un colore e gioco sull'altro. E divento ricco. E diventi ricco. Beh, poi facciamo metà, scusa. È mio il potere. No, a quel punto andiamo in pari, però, scusa. Ah no, però tu basta che punti poco. Punto poco e ti punti tanto. Tanto io quello che punto sempre perdo. Esatto. Diciamo così. No, però diciamo che la tua sfiga, se poi dovessi condividere, sì. Beh, è vero, sì, è vero. Allora no, devi vincere per forza. Oppure possiamo dire prima come lo tengo e poi cambiare idea dopo. Non dobbiamo essere convinti, quindi dobbiamo alterarci la memoria. e poi lasciarci un messaggio. Niente, dopo questa Dopo questa performance di arcieri lascio la parola agli altri, io vado a tagliarmi le vene. Niente, Avram, stai soltanto a dire ma che cazzo è evocato? Esatto, ma sì, cosa posso fare? Evocato le creature. Posso fare sì, liberating command su di lei come immediate action per farlo uscire dal grapple con una prova di escape artist. Dai, prova. Insomma, bene. Escape artist. Già sono 18, ma devo sommare di più. Quanto hai 17 più 18. Cioè, sommo 18 ancora. Ad escape, no, escape artist. Ah, escape artist. Che credo sommi destrezza. Ma no, non cazzo, sì, ho destrezza, esatto, quindi è 5. 5 più 17 più 20. Succa. 5 più 17 più 20, perché più 20? Il mio incantesimo gli dà più 20. Io ho fatto 17. Tirato 17. Sì. Ce la fa, esce. Esce, sì. Fa un passo a metro e mezzo. Oh, posso? Mi sa che prendi attacchi d'opportunità, però se fa un passo solo un metro e mezzo. Sì, però... Però aspetta, non ho finito. Hydraulic push, ce l'ho? Sì, hydraulic push e la push indietro. Ma aspetta, liberating command cos'è castarlo? È un immediate action. Con una standard action uso hydraulic push e faccio una prova di CMB. 19 più il mio caster level, un sacco di roba la sposto in modo che non prenda attacchi d'opportunità. Ok, va bene, vai, prego. Un full attack servito su un piatto d'argento. Allora 14 più 15 bla bla bla, l'ho preso. Allora questo qua era, no, via, 26. No, 26 è il danno. Sì. Non mi dici quanto fai. 14 più. Okay, scherzato, dai. Mi sei benissimo. Questa c'è già R4. Sì, c'è ancora R3, ovviamente. Mi ha preso lui. Sto stronzo di merda. Quindi 20! 26. Fermi tutti! 20! Olè, 20 critico per 4 signori! 2 più. Qui tradizione. Ha tirato 2, ma forse 17. Confermato, confermato il critico col testo 98 morto 12 spaziale, e li sciottiamo tutti. Questi contano come i danni miei. Non scherzo. Ma io devo andare avanti a fare tutto il mio attacco, quindi vado su R4. Minchia, Damasco è inarrestabile, cazzo. Punto R4? R4 di merda, ti uccido anche a te, stronzo del cazzo. Quindi no, questo è il secondo, era il tuo haste, tra l'altro. Grande. Così non è cazzo di farlo. Cazzo, 3 sapete... più... 18... No. Sapete che ha messo Neji 18. Nel Monocon Chain? Perché c'ha tipo le cose per bloccare i point. Ah, che figo. Come piaccia. Vabbè, 18 l'ho preso. 18 l'ho preso, 30 danni su R4. Così. Poi questo era il terzo, giusto? Sì. Quindi poi vado. No, ma minchia, hai fatto veramente dei tiri merdosissimi. Però faccio 2, 3, 2. Però sempre 18, quindi 27. Questo è il quarto, quindi me ne mancano 2. Cambiamo. Dai. 16. Quindi l'ho preso già così. 23. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi questo è il sesto e ultimo. 10 più 10 più 5, 15 l'ho preso, 15 l'ho preso, 29. Devo metterne 6 di danni. Devo metterne anche 12. Screen. Devo metterne anche 12, davvero? No, screen, no, no, al mio 98 critico. Non so se scherzava. Non è l'altro motivo che scherza. Screen al mio 98. È morto anche R4. Te li sciottiamo. Bene, tutti. Grande, Mamasco. Grazie. L'ultimo cadavere. Ma di che cosa? Ma stacco le zampe e le porto come arma improvvisata. Scusa, ma stacca gli denti al massimo. Che spasso. Esatto, no, stacco le quattro zampe e me le carico di così le lancio. Bene, proseguiamo senza indugio. Tu sei ferito. Ho 60 danni. Sei ferito. Sei ferito, sì. Allora, Bralani, visto che siete qui, inutile. Ti riversano 8 cariche di... Sirius Light. No, però aspetta, se io esco dall'ira, cioè ho i PF temporanei, quindi magari sono... Non sono temporanei. Cioè... Si tolgono, non lo ribadagni niente. No, so. Posso curare la media anziché lanciare... Barbaro nuovo sono temporanei, però. So. Anziché lanciare 12 dadi da 8, posso tirare la media o devo tirare? No, devi tirarli. Devo tirarli. Allora li tiro con la macchina, cioè col tiradadi? Mm-hmm. Aspetta, eh. Io confido solo la sfortuna per quello. Ah, ecco. Aggiungi dado, 12... di 8, conferma, conferma, ci sono, eh. Ne metti il nome. Ah, il nome... Bello, metti il nome. Io ci ho stati dai... Allora, 12 dadi da 8, vediamo quanto ti curo. 76 PF. Pieno. Ah, c'è qualcun altro che ha preso danni? Io 10, ma non ho... 13. Ok, tu 26, ne restano 26, no, 60, ne restano 16, li cura te. Con tre, i 3 vanno a lei, io okay. Sono full. Ti sei curato 3 PF. 3 PF. A posto, siamo quasi full. Grazie Bralani, li dismisso. No, non li dismisso. Proseguiamo. Metti che incontriamo subito un nemico. Sì, ma io esco da lì. Vabbè, ma quanti round è che ci sono? 22 round. 20 round, perché io sono un conjurer. Sì, però li hai evocati prima di entrare. Sì, sì. Poi li hai baffati anche. Sì. Fai che sono 4 round, più hanno curato per quanti round? 2, quindi 6 round sono qua. Se ora che arrivate su fai che passano altri 2 round, diventano 8. Non mi interessa se svanisco, ne basta. Vabbè, dovrebbe esserci per fai 6 round. No! Ok, non so, poi salendo le scale hai trovato una porta, immagino magari inferniata. Certo. Cioè anche lì spende tempo. Sì, guarda, io guardo svanisco attraverso la porta. Anche se guardiamo solo per un guarda, momento. Gli faccio il culo. Ma vuole comunque dei concentrati per il guanto. Svaniscono. No? Tipo ti devi mettere di round, tipo 3 round. Non c'è problema, qui togliamo. Aggotare. Dovete decidere il da farsi. Ti prego, seguiamo. Guanto. Aggotto col kunai. Volta vedo coi guanti. Sono proprio sgrati, cazzo. Kunai sono sì, sono forti. I bralani, non il Garagoroth col kunai. Allora, attraverso la porta, vedi quella che sembra essere una sala del trono. Cosa vedi, Damasco? Fondamentalmente. Dici cosa vedi? Vi è un lungo tappeto rosso che porta a quello che è un trono dorato. Siamo a casa. Sul quale siede un ogre, grosso ma pallido. No. Ragazzi. Ai suoi lati vi sono due retriever. No, il retriever, il golden retriever, no. Retriever quelli. Sì, i cagnolini, quelli lì che ci fanno i. Golden retriever è una razza di cane. Lo so. Quelli che ci fanno i. La CD e muori o muori. Quelli, ma quelli no, retriever. Sono quelli retriever, sono quelli che fanno l'urlo. No. Ah, meno male. Sono quelli prima retriever. Sono i ragni. Ah, scusa, meno male. Ok. Guarda che amaro. Sono due retriever. Ok. Basta. Non c'è nient'altro, nessun altro. Stai disegnando il mio canale. Non ti sembra. Non sembra abbiano fatto molta fatica per nascondersi. Beh, riferisco che c'è l'ogre grande, grosso e brutto. Entriamo e facciamo con questa uccisione, eh. Cosa? Ed è un po' dispettito comunque, uccidendo così i miei retriever prima. Vuoi aggiungere un CR16? Sono stato una vita al Kunai. Ah no, dai, ti prego. Ma no, anche il Kunai mi deve come l'altro. Tanto ho le armi di scorta. Che schifo. No. Cioè, oh, tu sei veramente andato in giro con le zampe di questi cavoli. Gli ha preso anche le gambe del tavolo. Ha preso le gambe del mio tavolo. Che cazzo stai portando in giro? Ti ho un problema con le gambe. Inizia a avere problemi di encumbrance. Non la calcoliamo, loro non può portare. Posso portare fino a 700 kg. Uno che ha 31 di forza. Ed è considerato carico pesante 700 kg. 4 gambe del tavolo e 4 zampe di gagno pesanti. Sì, ma il loro volume dove lo mettiamo? Cioè, non è che portarti in giro una mongolfiera senza essere encumbrance solo perché è leggera. Le regole dicono esattamente questo. No, io proprio di no. No, non parlano di peso, non di volume. Ma parlano anche se di. Se hai il buco. Come si chiama quello lì? Sì, quello. Vabbè, ok. Il buco dimensionale, ci puoi mettere quello che vuoi, se no no. No, vabbè, c'ho solo le quattro. Allora le quattro cose. Da, le zampe. No, le zampe non le porto, sono più debole, devo mettere le gambe del tavolo, no? Che domande fai? Le porti una di gambe del tavolo? Lo posso due? No. Dai, sono la schiena. Il kunai è piccolo. No. Non mi occupa. Va bene, due. Grazie. Vabbè, ragazzi, c'è il light shade, sì o no? No, non c'è il nice. Beh, allora, ragazzi, io ho un'idea. Ci sono varie statue, ornamenti, degli arazzi pesi qua. Ah, scusa, perché dicevi che adjustable polymorph era una cagata? No, non è tanto forte perché sostituisce solo alter self, quindi può prendere vabbè solo forme di altri umanoidi. Io riferisco e che si fa? Si secondo me possiamo ma farci farli un po' da me. Ma farci teletrasportarci accanto a lui e cercare di tirarlo giù nel più breve tempo possibile. Mi piace un sacco. Quindi teletrasporto sì, ma oltre a lui ci sono due retriever di fianco. E comunque lui potrebbe tipo tirare su quasi, grazie, magari io non so, animare qualcosa che c'è lì nella... È probabile, hai ragione comunque. Tu hai visto l'equipaggiamento del log? Avete finito di parlare oltre la mia porta? Mio Dio! Me l'ha sentito verosimilmente il team. Beh, parlavo a bassa voce, comunque si può bene. Parlavo a bassa voce, cioè non è che siamo lì tipo... Beh, comunque si sente. Bella zio! Dai. Perché se inizio uno parla da quella porta lì lo sente. Ah, è così piccola? Se è un buon tiro di perception... No, per dire. Ah. Cioè, comunque se fai un buon tiro di perception lo senti. Ok. Ah, beccati. Beh, mi piace fare le cose in nascosto. Dai, apriamo la porta. Apri la porta tu, Barbara. Con un calcio. Boom! Ah, che figo! Boom, apriamo la porta. Con la gamba del tavolo così. In tono così intelligente. Ho detto, avete finito di parlare oltre la mia porta? Ah. Ivanovic! Lo faccio vedere. Quanto è l'intelligenza? Vodka. Occhio. Così vodka. Vedi che parte di scacchi che facciamo io e lui. Questo è un pedone. Ah già, devi disegnare la... La, sala, la, salsa, la sala del trono? Guardate che si fiancheggiate questo qui. Ma che schifo, ma perché sembrano queste cose brutte? Che carino! È bellissimo. Infatti, non so. È un monaco. È bellissimo. Cioè. È un ciccione. Non è un monaco, adesso dico cos'è. Ti do, mi devo la fase, ma è un monaco per quello. Sì, è un monaco, ma non è solo un monaco. Ah. Non è solo un monaco, è la multiclassata. Secondo le nuove regole, che quando non ti dici? No, ho usato il nuovo monaco. È un fire infused vampire ogre monk. Che figo! Cioè, il nome è tutto un programma. Vabbè, insomma, questa è la rappresentazione. Esatto. Beh, ho fatto i piragni, eh. Ah, scusa. No, vabbè, non c'è bisogno di disegnare. Ok, non c'è bisogno di disegnare. Allora entriamo nella stanza, no? Va bene, Barbara ci fa strada e noi lo seguiamo. Tutti dietro così. Col prode kunai. E la gamba, le gambe del tavolo. Esatto. Sì, abbiamo finito. Ah no, aspetta, io sono invisibile, sto zitto. Parlo io. Faccio così. Per vedere se mi guarda. Prova di perception. Sì, va bene. Beh, non così sbagliato però. E ho fatto 18 più 16. Non sembrano tardi. Più per sé, più 16 e 34. Non sembrano tardi. O quantomeno finge molto bene di non vederti. Ok. Immagino vogliate dirmi per prima di combattere perché avete ucciso tutti i miei seguaci. Beh, perché fa schifo. O non parla dovevo il dirlo? Corvo. Sono un corvo bellissimo, ma che piume? Beh, se non volete dirmelo non fa niente. In quanto ho intenzione di uccidervi seduta stante per aver ucciso i miei seguaci. Ma vorrei sapere chi vi manda. Ci manda... tu sei visibile, cazzo ti... Ci manda un tuo vecchio amico, che ha già fatto una bella proposta. Mi chiedo se tu puoi offrirci di meglio. Posso offrirmi soltanto una morte più rapida di quella che vi offrirebbe. Ok, l'altro offre di più, bene, basta. E allora, ti farò il culo a capanna. Beh, oddio, non è che ci voglia tanto, visto che... Bellissimo! La vedremo. E parte il combattimento Yu-Gi-Oh! Voglio vedere se mi battessi, me lo battete in iniziativa. Proprio curioso. Lei sicuramente. Eh sì, lei probabilmente. Lei parte a 17. Ah sì? Ho 11 di vantaggio forse allora. Cosa? Quanto sono? 28? Posso fare una domanda? Quant'è il CR? Chi lo sa? Magari è 20, magari no. Magari mi dico tire. Magari non ho tirato 20 sul dado adesso per la tua iniziativa. Siamo questi. No, infatti magari non c'ha un mythic tire, magari sì, chi lo sa. 11 più 6. 17. 34. 18, 19, 28, 25. In ordine, 25. Io, Crack, signore maestro del fuoco, boom, i suoi pugni prendono fuoco così. Anche qua prendevo. Vi distruggerò così, no? E la contro di voi. Cioè la testa gli si infiamma. No, c'è cioè, una fiammetta qua, un ciuffetto. Ah, un ciuffetto. Che figo. Il sopracciglio che prendono fuoco. Anche, sì, sì, sì, anche un sopracciglio, che ne so. Ehi, amico, il sopracciglio. Così, no? Esatto. Chi mi ha spento i capelli? Esatto. Se mai dovessimo uccidere, gli spegniamo i capelli. Una cosa. La vedo dura. La sicurezza prima di tutto. Esatto. Il fuoco normale, io il fuoco blu. Non ho mai segnato un numero così alto, devo dire. Cos'è? Hai iniziato 48 iniziativa? Così? Che figo! Ti vergogni? Ho tirato pure così me. Così alto, dopo, così? Sì, muori, così. Io ho tirato un meso 14. E fu così che Barbaro morì nel primo round. Perché prese 12.000 attacchi del monaco panzone. Ah già, il monaco panzone quanti attacchi fa? Vengo a dire a te. Adesso appena finito il full round te li guarda, tiro anche il suo punto debole. Esatto. Perché ne ha? Posso fare una prova di perception? Sapere se io dico che sono le tettine. Prova di conoscenza. Scusa, conoscenza. Ma lì dica. Sì, sicuro che capire cos'è. Io ve l'ho detto ma voi non lo sapete. Ah, vabbè, dimmi cosa devo tirare e io tiro. E conoscenze e religioni. E allora aspetta, ho fatto 34 per il tiro per colpire. Che sono iniziativa per colpire. Iniziativa, scusa. Magari te ne posso tutto. Cos'è che devo fare? Beh, conoscenze e religione. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ho fatto 23 su conoscenze e religione. Comunque, la vedo male perché sono andato basso iniziativa. Adesso di sicuro mi attacca per primo. Mi fa il full round. Ho fatto su religioni, sicuro non lo potevi battere l'iniziativa, quindi cosa no, cambia? Niente. Solo che agisci dopo 23. I 23. No, beh, fatto non capisci cosa 12. Sia. No, ho fatto 14. Okay. Tu quanto fai a comprare conoscenze e religioni? Quanto lo puoi comunicare agli altri dove scopri se vuoi mantenere la tua? 6 più 16, 3, 22. No, no, c'ho 11. Suppongo che sia un non morto guardandolo. Non posso saperlo. Non puzza? Sì, boh, capisci che è un non morto. Considerando sì, anche che probabilmente è il capo. Sì, esatto, in quel senso sì, però non sai che è un morto. Ok, certo. Cioè non lo riconosci. Ho capito. Va bene. Vai, okay. Agisci. E no, ditemi iniziativa. 13, 13, 14. Vai, prima tu. 25. Tu? 17. 25. 14. 34. Mi va bene che c'è Remy, ok. Tocca prima a lui. Strano, non l'avevi mai detto con un 48 prima di ha tirato solo 48. Disegnatevi. Come, scusa, ma che capolavoro che ho fatto lì? Guarda. No, io volevo fare... Niente. Quanto è grosso lui? Lui è large. Comunque, guarda, senza di noi... Vabbè, aspetta a disegnarlo che lo fa muovere. Ah, esatto. Sì, infatti. I ragni metti lì, sono large anche loro. Allora, tu... Dici cosa fa intanto? Vabbè, perché e dobbiamo, dipende come siete messi. Ci dobbiamo determinare. Beh, il Barbaro è davanti. Il Barbaro è davanti e l'ha provocato. Strano, non è da me. Non è dal Barbaro. Tu hai voglia di fare un personaggio nuovo, io me lo sento. Mi sento 30 feet, così fai il calcio volante del nuovo. Che figo! È fighissimo perché poi fai anche la raffica di colpi. Devi dircelo tu se entro 30 feet, noi siamo all'inizio della stanza. Esatto. Beh, siete un po' avvicinati, te. Beh, abbiamo varcato la porta. La stanza quanto è grande? Dentro l'albero, alla fine. No, ma aspetta, mi sa che no, era come gli hai disegnati lei. Così, come grandezza, scusa. C'è in uno dei rami dell'albero. Mi sa che si avvicina. Dai, facciamo gli calcio. No, vabbè. Intendo i ragni, mi sa che erano come gli hai disegnati tu. Sì, ah. Sì, di grandezza, sì. Tu hai disegnati un... Dai, sbrighes, senza far così preciso. Vabbè, scusa. Devi disegnare noi! Ma noi siamo delle pippe. Allora, siamo... qua, lo, faccio in, lo faccio vicino. Qua la stanza finisce. Ah, finisce qua. Che cazzo di stanza del trono è? È piccola perché è uno dei rami, cioè dell'albero, quindi è più piccolo. Qui, allora, Baca. No, puoi anche cancellarli. Baca. Che preso male. Qui, Avram. Qui, E. Giusto? Sì. E poi qui Damasco. Esatto. Qui Damasco e basta, giusto? Siamo in quattro in questa sessione. Sì, siamo in quattro. Sì, bravo. Però non ho... pensa che Bralai non ci sono più. Gli ha tirato uno in meno alla, all'iniziativa. Bene. Per bilanciare. Cosa vuoi fare? Esatto. 9:40. Calcio volante. Calcio volante. Tra l'altro non sono neanche io, quindi non faccio niente. Scusa. Ma tu ti immagini una scena? Se sei tu mi dica col calcio volante, e mi dica... Qual è l'ultima parola che gli hai detto? Cos'è che gli hai detto? Ti faccio un culo a capanna. Ti faccio un culo a capanna. Calcio in faccia. Riga di spaga. Esatto, lui vedete che, cioè, come si prepara, nonostante la sua mole, le sue gambe che si spessiscono, boom, boom, boom, escono fuori tipo dei muscolazzi giganti alle gambe che si muovono a velocità allucinante per 110 feet. Quando vedo che con lì faccio oh. Esatto, così. Capito. Perché quel cacchio di Yunkai-Shek non rompe le palle un po' di meno, viene ad aiutarci, sto pippone di merda? Infatti, cioè, Yunkai-Shek gli farebbe il culo in quanto tempo, tanto per sapere. Spero in poco, perché sennò non possiamo proteggere. Infatti è una domanda per cercare di capire qualcosa su un po' di metagame. Ah, io ce l'ho ancora, Egoism, tanto puoi chiedere. Sì, certo, quello sì. E Tatuman Akumensi? Sì. Sì, no, quello non lo so, tattico. No, East no. Vabbè, East basta ricastarlo. Tanto tu dici prima di me, quindi. Comunque potremmo anche far finta di niente, non entrare. Ci ribaffavamo e poi entravamo tutti a fare i pro. Ci rincorremo. Beh, poi devi arrivare fino alla porta, no? Tabella. No, tattica la come no, perché durerà. Non puoi fraternizzare col nemico. Lui è Master Wayne. Tra l'altro qui abbiamo tre esponenti tutti infiammati. Cioè lei col fuoco, io col fuoco e lui. Ok, va bene. Io con un... ricordati che se lui è a terra... Sì, allora ti faccio quello che appanno mi fa la vedremo. E fa uno scatto e ti tira un calcio volante alla Jackie Chan. Qua in faccia, cioè, nel senso che si colpisce. Per non citare Chuck Norris. Beh, strano. Chuck Norris, sì, è vero, Chuck Norris ma sarebbe già morto. Esatto. Devi fare un 1, cioè 18, perché non sono in liga. Ha tirato un 2 comunque. Vabbè, colpirà. Quanto esci a? 18. Ok, ti colpisce. E ti fa... Adesso un attimo. 14 danni. Si è dovuto muovere. Vabbè, magari c'ha un qualche cagatina. Sì, veramente. Sicuramente. Se fa un se basta. Tu hai qualche resistenza contro il fuoco, giusto? Sì, 5. Ok, allora togli 5 danni che ti fa, perché c'è del fuoco in mezzo. Ottimo. Mi resisto 8 contro di lui. Di 6, mi date dei di 6 perché qua ho vinto. Sì. Tieni. Domani. Bastano 2, basta. Ok. Ho detto un po'. Ho pensato a 8 di 6. Sono 8. Che anche tu c'hai anche la damage reduction. Sì, 3. Sì, 3. Okay. Quindi sottrai 8. Non è pochissimo. No, infatti, è il suo fisso. Quindi facciamo che te danni dico senza i fissi. Sì, dai. Ecco. Non sono comunque pochi. Strano. Non fai mai tanti danni. 12, 6, 18 e 2, 20 danni. Vabbè. Con un calcetto. Al secondo attacco altre cose? Certo. Vabbè. È full attack. Minchia. Te lo metto già appunto. Perché questa è la sua abilità speciale del Monaco, che puoi fare un calcio volante e ti muovi al tuo fast movement, in questo caso 30 feet. E fa parte del movimento. Puoi farlo come parte del Flurry of Blow. Il Flurry of Blow. E tipo la sotto e ti puoi muovere. Cioè, è punz. È un punz di 30 feet massimo. Più. No, non è un attacco in più. Cioè, fa parte del Flurry of Blow. Ah, ok. Secondo attacco è un pugno. No. No, amore, così. Stordente. Così no. Dovresti fare le botte. Se vieni, pugni stordenti, non ci ho pensato. Vabbè. Che così come si prende a non è studiato bene, è la prima cosa che impara. Sì, però nel senso non si bada su quello, cioè. Ma sempre su di però lui? Ci starebbe, in effetti. Presumo di sì. No, ti fa un pugno comunque, ti colpisce. Sì, sempre su di te. Però. Poi passa a te, tranquillo. Ce n'è per tutti. Ce n'è per tutti, esatto. Ok, e ti fa meno 9, 11, no, 9, 13, 14. E 2 16 danni. Se mi si è avvicinato, ma l'attacco di opportunità. No. Aspetta un attimo, scusa. E subito dopo il pugno ti tira una gomitata, perché questa è un'altra abilità speciale del Monaco, no? Così boom, e fa un attacco in più in questo modo. Si chiama Elbow Smash. È giusto. Bam, no? A meno 5 però questo. Vediamo. Beh, però tu c'hai 18, giusto? Sì, non ho ancora 20. Ok, allora va bene, ti colpisce. Te pari, va. Tu segna i piedi perché io non ti sto dicendo. Sì, sì. Ok. Un po' meglio questo tiro, non c'è un numero sotto il 3, 10 e 11, 21 e 3, 24. Questo è il terzo, ok? Madonna. Poi vedi quanti danni ho su. Poi passa... Tanto, per ora non puoi fare niente. Passa lei. Fa l'attacco contro Eleni. Perché scusa, non essendo neanche in mira, ho tipo 116 piedi. Vabbè, adesso entri in mira. No, perché è entrato nel quadro. Gli faccio quello. Ah, minacciato. Okay, ma non potevi fare il come and get, mi scusa? No, sono 6 mira, no. Ah, giusto. Sì. E tra l'altro esce una 25. Ti immagini che arriva il Marco. Sì, dovresti sì. Resistere perché mi ricordo perché abbiamo fatto una scelta. Allora no. Secondo me resisti al fuoco, è impossibile che non era damage reduction di 5 a tutti gli elementi. Avrà 5, dai. Sì, sembra di facciamo sì, che 5. Però non mi sembra che in più. Ah, anche a te li dico già sottraendoli comunque. 10 e 6 16 e 3 19 più 3 19 più 3 22. Mi allargi? Se riesci o fai di meglio? Ma perché? Per darti pochissimi danni in più. Ma no, cioè, per una mia azione standard non vale la pena. No, no, se hai qualcosa di meglio da fare, cioè, spiego qualcosa di meglio da fare, però... Posso sapere una cosa quando hai tempo? Avendo visto che tu sei più difficile da colpire, l'ultimo attacco lo fa ancora su Bob. E te pareva! No. Beh, doveva testare, magari scopriva che era più debole, andava giù subito, roba del genere. Ha dovuto testare con un pugno. Madonna. Ah, aspetta, su di te, con una free action. No. Fa così, bam! Cazzo. Bam, più o meno. Sì, no, comunque ti colpisce. No, così. Che gli ficca due dita sotto il mento. No, no, nel costato. Il così, costato. Bam, così, e d'ora in poi tutte le tue abilità, per un'ora, costano un arcane pool in più. Minchia, figo. Forte, sì. Quanto è forte questa? Ma, cioè, tutta la vita, ma no. Solo la cane in generale, c'è anche sulla sua. No, c'è anche per il grit, c'è anche per... cioè, nel senso, se lo fai contro i key points, non costa key. Fai bene. Ah, minchia. Altrimenti... Che costa key? Costa due key points fare sta cosa. Beh, è fortissima come cosa. Cioè, se sei secondo... Beh, per un PG non tantissimo, invece per un... Per un NPC sì, cioè, per senso... di lei è letale, infatti appena tu fai un attacco lui ti viene dietro qua, perché così almeno devi spendere un grid point per poter fare i 3 di 6 in più. Per me è letale? Per te sì, perché tu, cioè, fai quella roba lì con gratis finché dei grid point, altrimenti dovresti spendere un grid point ogni volta per fare i 3 di 6 in più. E lui sa tutte queste cose? Ah. Beh, finché non l'attacca no, infatti non l'ho fatto subito. No, quello sì, vabbè, ok. Però posso posto che lei fosse un Magus, no? Beh, una volta che uno vede che ti fa gli attacchi così precisi, proprio non sa bloccare l'abilità di uno. Cioè, ok, l'ultimo attacco ti colpisce. A te. No? Ok. Ma mi ha fatto danni l'altro, scusa. No, non è a te, è lui è questo. No, non ti fa danni. Ok. Ti blocca solo. Vabbè, vediamo. Vabbè, facciamo meglio a non tenerlo. 4, 8, 10, 14, 15 danni. Te, Simone. Ok, sì. 15 danni. E poi con la Swift Action fa un attacco in più durante la Flurry of Blow e lo fa su di te perché è al massimo del bonus. Questo. Ok. Ti colpisce. Cioè se avesse cioè contatto... fa sempre più di 20. Beh sì. Sì, guarda, vedi la c'è molto bassa, noi non c'è molto bassa. Infatti, 12... Non so perché tu ce l'hai così bassa, scusami. Penso anche il bonus di intelligenza. 19 danni. 19 danni? Ma che bello. Ok. Perché sì, amore. Ti tocca? Intelligenza. Ok. Vai, amore, fagli il culo. E vado di scimitarra, no? Io. Davide, se tu sei d'accordo, io fai fare. Per fiancheggiare. Devi fare un full attack, cioè. Eh lì... sì. Lo so. Cioè, però al massimo fa un passo. No, non puoi fare un passo di mezzo in diagonale. Quindi, ma faccio paura che non so quanto ci ha. Ho capito, ma ti pare che si prende 1000 attacchi d'opportunità per andare dietro? No, ho capito, allora non attacca proprio. Non è che abbiamo i round da sprecare per avere un più 2 tiri per colpire. Beh no, è più con tattica. No, perché non c'è più tattica la Kumen. Comunque 3 più 5, non più 3. Vabbè, che più 2 più 3. No, devi fare per forza un full attack. Faccio con la scimitarra? Sì, devi fare un full attack e magari metterci un bel incantesimo che fa danno. Devi fare una po' di concentrazione però per castare la tua difensiva. Okay. Un bel frostbite. Vi faccio frostbite. Tanto al più perde l'incantesimo, no? Cosa fai il frostbite? Oh. Dovrebbe essere più forte. Però il frostbite. Non abbiamo la ti ricordi che non morti? Sì. È vero, è quello che stavo pensando. Ho un altro raggio rovente. Ho una scintilla. Shock Shocking Grasp. Un bello Shocking sì, Grasp. Sì, ho anche Shocking Grasp. Vediamo come se funziona. Devi fare prima un tiro di concentrazione. Devi fare una spell resistance, però. diventi, giusto? Tiro per colpire. Shocking Grasp. 14. Anzi, no, prima di tutto deve essere la concentrazione. Che era il di 20, giusto? Sì, quello lì va bene. Di 20 14. Più. E io ho come segreto del magus concentrazione. Sì, sì, dovresti avere un totale di concentrazione, no? Ma contro lo Shocking Grasp, ma non c'è il TS, no? Non l'abbiamo mai fatto qua. Fermi in mente adesso. Vediamo. Cosa di no? Cosa dovrei sommare? No, perché quelli col TS non hanno. Quelli con il tiro no. Non c'è. Il tiro per colpire solo. Anche il tiro per colpire non ce l'ha. Vabbè, fai una prova di concentrazione. Esatto. L'ha fatta. Ha fatto 14 più un bel po'. Ha tirato 14? Sì, basta. Un secondo. Okay. Poi fai un tiro per colpire, anzi una spell resistance. È di secondo perché sarebbe di primo e l'aumenta. Ma lei ha preso quel talento di no, quindi fa 5 di 6. Sì, 5 di 6. Sempre... Lo sento come M di morto. Lo incanali nella scimitarra o lo fai... Sì, lo incanali nella scimitarra. Io pensavo di incanalare nella scimitarra. No, okay. Ho sbagliato. Allora fai il tiro per colpire. Aspetta, sì, poi la spell resistance dopo. Se ce l'ha. 19 più 16. Di critico. Minaccia di critico. Dai. 16 più 9 25 non 25 non ce l'hai un più 1 no ma proprio un... cioè, ah ok, minchia, dici a touch, non è touch contro la scimitarra. Ah giusto, che scemo. Allora, okay. Ok, mi stavo cominciando ad alterare. La forza hai fatto 26 no? Giusto? Sì, sì, sì, sì. Ok, niente, devo vedere di 6, scusa. Qualcuno che non ne ha bisogno di 6, tu che tira da io ne ho qua. Top, usa i miei, quanti vuoi? Devo stare a chiederli ogni volta, più che no. Poi ridammeli. Uso questo. E allora no. No, alla fine della sessione. Ma ora mi piacciono piccoli. Quanti? Questi qua mi piacciono. Quelli sono belli. 5, 10. Ma scusa, prima cosa hai tirato, scusa? 17. Per fare il critico. Hai tirato sul dado quanto? 19. 19. Ok, più? Più 16. 19 più 16. Allora, un po' sì. Un po' sì, se possiamo. Allora, 17 più quello di scimitarra, quello della scimitarra. Esatto. Quindi 16, 17 più 16. Ma hai fatto il dado da 6 della scimitarra? No. Ah, sì, l'hai aggiunto, sono no. No, sono 5 e 5 e faccio 17. La scimitarra non è d'argento, vero? No. Allora, riduce. Vabbè, niente, lui riduce. 4 più 16, quindi 20. 20 più 17. Totale danni 37? Sì. Ok. È vero, figlio, che tu coi. Noti che il tuo attacco è poco efficace. Un po' di male già fatto, ma non tanto. Dai, mi faccio solo fare incazzata. Mi farò solo io. Lo faccio con la scimitarra. Esatto. Posso fargli la scimitarra col Flaming Burst? Però mi non sa so che... cos'è questa cosa. Che praticamente... Cioè, non so che cosa fai con una Swift Action un permanente. Un di 6 di danni da fuoco. Ho capito, okay, ma come fai? Sì. Cioè, devi usare l'arcane pool, quindi giusto. Cioè, tu dici quello. Cioè, di mettergli... Sì, una Swift, mi pare. Mi pare sia una Swift incantare l'arma. Ma sì, c'è anche Carmelo, no? Ti ricordi? Sì, quello certo, ma... Era una Swift. Ma non... Sì, quello lì sì. C'era... È praticamente un non... D6 normale della scimitarra più un D6 da fuoco. Ok. Cioè, nel senso, ma... Scusa, è un bonus più 2, ma anziché darti un più 2 il tiro per colpire i danni, ti dà un dado da 6 di fuoco. Sì. Che poi critta. Ah, sì. Perché poi critta è più forte. Esatto. Ok, va bene, ci sta. 13 più 19. Colpito. Fa 32. Sì. No, perché più 19? Non ho... No, non devo dare il primo attacco, devo dare il secondo adesso. No, perché ha fatto quello per colpire con l'incantesimo, adesso fa il primo. Ah, già, scusami. Questo non 32? Io non ho... Sì, perché non mancato. Ho... Forse è... Meno male che non ho... Un minimo più 2 il tiro per colpire, no? In che senso due al tiro? No, sai, perché questo Flaming Burst lo fai anziché darti un più 2 al tiro per colpire a tutti i danni. Okay. Allora, sostanzialmente tu con abilità puoi... No, ho capito adesso cosa intendi. Vai, quindi, secondo attacco. E quindi faccio scimitarra normale. Vabbè, ormai è fatta. No, infatti, ormai hai fatto quello. No, dico, adesso faccio la scimitarra normale. Sono tre, no? Sì, però sì. È ancora Flaming Burst. Cioè, certo. Sì. Dico per me. Mancato. Ancora uno ne hai. Forse un altro. L'ultimo col 15. Per la figa. Ok. Che sfiga. 7, 4, 3. Sì, okay. Però 30. Tocca a lui. Ok. appena Tito. Ti tocca a me. Fate le azioni. Sono indeciso. Ma questa è la tua usrula o un'abilità del monaco che dice due volte perché è mitico? No, è il mythic template. È il mythic template. C'era più. C'era più uno, dai, ci sta. Ma la prendiamo anche noi, cos'è? Il prossimo aumento di livello la prendiamo anche M di noi. No, è una vita solo per i mostri, non esiste per i giocatori. Ah, no. Peccato. Non è così forte. Sono indeciso. Solo faccio quel coraggio. La vita non è così forte, però... 20 al tiro per colpire. Fai quella spettacolare. Cioè, magari fa la sua Abraham appena lo vedi, cioè, giusto per... Facciamo così. Ok, fa un dazzling display. Dal nome è bello. Quello Deadling, ok. AOE fate un TS. No, non è un TS. Com'è che funziona? Devi fare una prova di intimidire. Ah, ok. Ah. Contro la nostra saggezza più il CE. Ok, ciao. Non lo colpirete mai. Avete più meno adesso due, avete meno 2 a tiro per colpire. Meno 2 TS. Siete scemi, è una cosa più importante. Per ma perché? Devo fare due attacchi in più adesso. Quindi noi dopo dobbiamo fare... Ti detesto. Dobbiamo fare... E... Beh, ragazzi, si tirano i personaggi. Con la sua move action? Ma come con una move action? Grapple è una standard action? No, per lui è una move action. Dobbiamo entra in grapple con Simone. Perché è abituato. No, aspetta. Tu c'hai un'arma, però con l'arma a mano si può sempre... Sì, si può sempre colpire. Allora, te che hai le pistole, però non ci arriva fino a lì. No, allora non entra in grappolo, mi sa. Ma con la muva... Ma che cazzo fa se no con la muva? Vuoi sprecare la muva action? Arretra. Pick him and get me. Torna indietro. Ma non sa che è un barbaro. Beh, non si fa fare il full attack, scusa. Non è che è un problema. Ah, di brutto retro. Sì. Ah. Avete gli attacchi d'opportunità. Quindi io da te. Perché sono il mio modificatore di intelligenza. No, è da... Mancato. Va bene, no, qua. Uno perché ho un colletto. Qua va bene? Sì, va bene. Mancato. Ho tirato 21. 21 mancato, sì. Tu? Ma scusa. Cioè, non sa che hai punz, però. Cioè. Vabbè. Sì, ma il dubbio è che carico. No, non ho colpito. Non posso caricarlo. Quanto è alta la stanza? Ma basta, un attacco solo. L'alta, la stanza è alta più di 20 piedi. Sì. Ma così. Scusa, per curiosità. Va bene, scusa. Perché è un attacco di opportunità. L'attacco d'opportunità. Ma io sono l'intelligenza, gli attacchi di opportunità. Ma se è un quadretto solo, a che mi... Cioè, ma quanto... Cioè, quello è il tiro per colpire, che sono, cioè, nel senso... Quanto hai fatto totale? Hai tirato 8, non penso che l'abbia colpito. No, perché dice, ho faccio aspetta che opportunità perché... Però se viene provoca più di uno, funziona così. Ah, ok, scusa. Se l'ha un po' forte. Ma su tutti provoca attacchi? No, solo su loro, che l'ha portato. Ok, tocca a... Damasco. No, mica, Damasco no. Damasco no. Da lì ci arrivo, no, vero? Sì. No, devi spostarti. No, comunque devi essere più vicina perché da lì non è touch, devi essere intorno a 30 feet, tipo, per essere touch. Quanti quadretti sono? 30 feet sono due... No, scusa. Sono 6 quadretti. 6 quadretti. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadretti. Basta mettere mezzo può fare. Ah, quindi se fa un po'... Sì, però non ha... Ah no, sì. Sì, sì, perché lei deve scegliere un suo angolo e da quell'angolo deve vedere tutti gli angoli. Che figo. Lo vedo così. Quindi Damasco sì, qua. Sì, perfettamente. Vai, Damasco. Facci segnare. Non vuoi... Se sì, qualcosa vai. Da... No, per poter fare haste, ma non conviene temporizzare. Proviamoci, regà. Ma io... Domanda. Io posso entrare... No, scherzavo, cosa sto facendo? Posso andare direttamente... Posso fare gli attacchi del... Del two weapon fighting o del deadly aim o posso mischiarli? Adesso farò la cosa più figa del mondo, eh? Non ho capito cosa vuoi mischiare. Devo fare solo gli attacchi del tuo weapon fighting e solo gli attacchi del no, no, puoi mischiare. Infatti questi sono mischiati, tipo sono 6 attacchi. Sì, ma ok, ma solo del secondo. Sì, ma solo del secondo attacco e sono diminuiti. Certo che sono diminuiti. Che perché poi... vabbè, faccio delle rilieve, va. Proviamoci. Sono morto. Sono mortissimo. 18. Manca. Cosa? Mancato. Ciao. È un monaco. Cioè, insomma, 6 solo perché è monaco. 25. Colpito, ma... Ma... Fa così, zoom, evita e devi il proiettile con la mano. Ma non ho neanche fatto. Ma cos'è, immediate action? No, si chiama deflect arrows, però scritto funziona contro i ranged attack. È automatico. Quindi... Solo sul primo. Ah, ok. Zoom. Ti detesto di più. Anzi, fa così, no? E il proiettile si ferma in mano, fa. Che figo. C'è ancora Ace? C'è Ace, perché la disciplina di me. Dopo lo se vuole faccio io. Dara. No, faccio io. 16 più 6. 22 non capisco. Ma ha tirato 18. Però è il terzo attacco, insomma, solo 6. 15 più 6? Niente. Tra l'altro, ma dai, ma che palle. Sì. Oh mio Dio. Non lo confermerà, oh mio Dio, porca troia. Non lo confermerà mai, però vabbè. 20! Sì. Successo automatico! Fermi! Che domande! Se ne va, il master si ritira. Vale. Ok, però io adesso devo fare il critico qua, no? Il teschietto! È teschietto, molto eloquente. È tutto, no? Sì, è il teschietto. Aspetta un attimo qui. No, non fare nient'altro. Non puoi deflettere questo critico. Magari, quindi? Alla mischance di... Bleed, precision damage, pause, paralysis, sleep, stunning effect. Cioè, critico. Ah, è immune su tutto quello che non è immune, non è immune. Però così vuol dire che dopo avrà uccidere me. Aspetta, innanzitutto vediamo se io questi i 3 di 6 valgono. 3 di 6 per cosa? Posso fare il mio critico? Sì, fai il tuo cazzo di critico che hai fatto 2,20 di fila. 80. 80 danni. Torni a casa mia. 80 danni. Così. Per gradire. Per cominciare. Più 1, 81 perché non entro 30 fit. Più 4 allora. Più 4. Allora c'è già scritto, mi sa. Sì, è già contato. 80. Non ti arrabbiare con me adesso. No. Molto no, papire, i treve non faranno quelli pietrificanti di raggi. Vabbè, se ci vuoi uccidere. Giulia? Sì. C'è un altro pacchetto se vuoi. Sì, vabbè. Premio per il critico, meritatissimo la forza di patatine. Meno male, cioè. Meritatissimo, 80 danni così. Mi faccio ancora accesso. Ok, retriever. Golden Retriever, che fanno? Mi ho detto una cosa meravigliosa. E adesso questo fa un raggio su di te. Lo fai tiro salvezza riflessi. Ah, prendere il corvo! Così no. Uno. Bene. Che sfiga. Ok, 16. Danni pieni. Fallimento automatico. Prova a lamentartene dopo quel 20 di conferma automatico. E vedi. Ultime parole famose. Non lo confermo, bam, 20. Te lo confermo. 7. Ho dato un calcio a qualcuno di nuovo. Comunque avevo letto una cosa bellissima. Adesso ho detto capire. Era più 20, ho detto è più 20. No, tu hai 36 più 20 danni. Una conferma, un critico. Segnali. Tanto che non sono raddoppiati. Tu hai più 20. Hai critico. Mi caghi? Beh, non è male. Non uccide. Dici che posso farlo? Corre. E ti fa un morso. Tu è basta. No, scusa, non ho nessuna attacco di colpisce. No, chiaramente, che? Entra nel quadretto minacciato. Colpo accurato. Sì. Così si mette. Questo è quello swift action. Danilo, così guarda. Il tiro per colpire. Qua. Ah, no, perché è un standard action. Mi sembrava strano. Quindi o fai quello o attacchi. Non... Che tristezza. Ti fa 8 danni, non si può muovere. E prova a entrare in grapple. Ci riesce. Sei in grapple. Ma te la prendi? Non te la prendi? Cioè... Se invece ancora vado a prendere. R2. No, grazie. Passa cosa, ma su Eleni. Devo tirare? No, sì, devi fare TS, sì, però. TS, scusami. Mi fessi. Sì. È la mia vittoria. 26 di mezzi. Ha tirato alto. 24 danni, già dimezzati. Ok. Praticamente come lei, ma nel suo legno di mettere già dimezzato. Cosa vuoi? Ma no. Non mi tocchi. Devi ammazzarlo. Se non te lo può ammazzarlo, tra l'altro. Secondo me. Chi? Lei. Io non sono. Lei in grappa. Io no. Adesso io ammazzo lo cagno. Sì. Segnatemi R2 lì. Tanto comunque posso sparare in grapple. Prova a morderti. No, prendi attacchi d'opportunità. Sono in grapple? Eh sì. Femmini. Quanti danni prendo? Adesso dico. No, scusa. 9 danni. Prova a entrare in grapple. Ok. Sono proprio stesa sopra di lui. Entrambi siete in grapple con i ragni. Giusta punizione, dai. Lo schifo. Tocca a Avram. Appaiono 6 Revenant. Cosa? Appaiono 6 Revenant. No. Oh, come se non fossimo già messi abbastanza di merda. Ho 35 PF, sono morto. Come hai 35 PF? Hai idea di quanti danni tu dai? Beh, ma tu sei poi entri in ira, no? Sì. Capito. Prendi un altro pochino di PF. Sì, ne quello 40. No, no. Arriva a 70. Ci arrivo. Sì. Sì. Infatti ho pensato che stessi pensano tanto apposta per evitare di uccidermi. No, no. Perché okay. Voleva testare un po' come era lei, semplicemente ho fatto un po' di... Cioè, avevi fatto su un'80ina di danni, fai. 80... Non ci aveva fatto, una possibilità su 400 c'era di fare clinico. Ma non sai che quello con quel tiro lì. È giusto. Cioè, ma lui è un non morto. Una su 400. È un non morto del bestiario a cui hai applicato dei livelli. No, ho messo solo i template. Lui è un monogre. Io ho un problema. Un problema molto grave. Sì. Si chiamano 74 danni su 94. Cioè, hai preso 74 danni? Ti ha fatto solo due attacchi. Vabbè, allora non sono così brutta. Io sto lì e muoio praticamente. Comunque la ciappa io stesso. Mi sembra l'unica cosa che un po' un rischio. Gretel teleport ce la abbiamo? No, vabbè. Non esiste Gretel teleport in questa ambientazione. No. Lo sappiamo. Vabbè, una cosa che si può fare. Una. È io vado qui e vi porto tutti dietro di lui e voi vi tiro fuori dal grapple. Vi teletrasporto tutti qua. Con cosa? Con la mia Supernatural Ability, che è come Dimension Door, che non è male tirarvi fuori dal grapple, è una cosa. Così poi voi due non avete ancora agito? Sì, avete. Lei sì o no? Quindi tu faresti gli attacchi, solo che sì, poi uno di voi due muore. Sì, ma ho meno due a tutti i tiri e non lo beccheremo mai. Sicuramente non beccheremo, perché poi io sommo 24, 15, 10, meno 2 sono 22, 13, 8. Non avevo calcolato i danni. Cioè i cosi, il meno uno, non mi ricordo. No, il meno più. Due. L'ha fatto dopo e comunque, cioè, non ha colpito. Una opzione è quella, un'altra opzione è fare un muro. È vero. Altro 20 piedi, altro 20 piedi, cioè 4 quadretti. Ho pensato di fare la stessa cosa, però muro alto 4 quadretti, che vuol dire che se non vola si deve arrampicare e perde un po'. E probabilmente la rompe, lo rompe il muro poi. Sì, vabbè. Comunque spreco un round. Su due. Se lo rompe in un round, sì, certo. Beh, visto che ha fatto 75 danni e passa in un round. Vabbè, deve farne tipo... Lo farebbe solo perché è figo spaccare. Deve farne tipo... Puoi correre verso di voi e tirare gli altri pugni, però. Il muro ha tantissimi PF, tipo 240 no, con hardness 30, cioè... Oh. Ok. Fai il buco. Quantomeno non può fare la cosa diretta. Si deve arrampicare. Cioè non può fare full attack se gli faccio. A meno che non c'ha se... quelle. Ma che però. Beh. Il monaco c'ha quelle abilità lì che è tipo Dimension Dog. Non è vero, c'ha Abundance Step. Vabbè, Abundance Step Dimension Dog non può fare azioni dopo. No, certo. Ripeto, però sei. Ma c'è prossimo una abilità che voi non conoscete, ma non. Vabbè, però io pensando a Abundance Step comunque. Sono idiota. Non so di che cazzo fa. Per confermare i crediti che ti devo sommare il modificazione dell'intelligenza. Beh. Tanto lui fa full round lo stesso, allora a questo punto vi porto da lui. Solo che vi uccide tutti. Eh sì. Non lo so. Io arrivo a 70 PF anche se lo rinigo. O lo ammazziamo quando... Vabbè, allora scappiamo. È troppo forte, scappiamo. È l'unico che posso fare. Se... Mi sembra troppo forte, ha fatto troppi danni. Aspettiamo un round. Un round, cioè non ce l'abbiamo. Lei ha 30 PF. Lei ha 30 PF, tu hai? Io ne ho 35. Entrando se va di mira arrivo a 70 circa. Tu già puoi stare però. E no, 70 fa spi 75 danni. Però tu con un attacco probabilmente non dico che muori. Sì, no, io sì. Si muore. No, vai, vai sotto lo zero. La media è cioè 19 praticamente. Cioè l'unico che sotto la media è stato 9. Dovrei fare un bel po' di crit. Cioè, quanti attacchi fa? Cioè, scusa, quanti danni fa l'attacco? In media 20 me ne ha fatta. Vabbè, 20 morso... puoi prendere due attacchi senza morire. Svenendo e basta. Ma io ne ho 41 di PF, scusami. Non riesci a evocare qualcosa nel mentre che non ti occupato. Sì, però... No, non, cioè, non gli conviene, secondo me. Cioè, spreco tutto il round. Posso evocare, sì. Sì, metti che ne so, due anche... no, perché tanto arriva il prossimo turno, poi. Quello è il fatto. Quindi non serve a niente. Cioè, se voi resistete fino a che, ma probabilmente morite tutti. Cioè. Se cai che fa ancora il calcione, però alla fine non è che cambia molto. Se riesci tipo a liberarmi, che mi faccio l'invisibility greater, che così lo attacco. Sì, così prende danni solo lui. E muore no, subito. Lui scappa, scusa. Oppure mi liberi. Dobbiamo scappare, e lo metto a lei. Se scappiamo, scappiamo tutti. Cioè, se non scappo io, i danni se li prende lei perché è l'unica visibile. Scappare, basta fare una dimension door verso il basso. Ma qua. Mi libera, io scappo. Cioè, capito? Nel senso, lo faccio a te, io scappo. Ma scappi dove? No, aspetta. Ok, se tu mi liberi, io poi faccio a lei Invisibility Greater e io indietreggio. Se lei fa Dimension Door e va nella tua magione. Comunque vedi che è conciato male, eh. Col suo taglio critico gli ha fatto un bel po' male, eh. Ok. Senti. Aspetta, sto pensando, Lo sentiamo? Ti trasporto cili, dai. Ma comunque, se tu forse non ti conviene andare in ira, più che altro. Perché? Perché se poi va a zero muore. Invece così sviene. Ah. Ma se non va di ira non lo prendo mai. Però se vai in ira guadagni anche PF bomba. Quanto arrivi, scusa? 77, se vuoi dire. Minchia, stai lì a fare la lagna. Ma ne hai fatti 75 danni, Ho capito. Neanche fatto anche un sacco. Adesso te ne fa due in più di attacchi, ok? Però, cioè... Non cioè, lo uccidi, eh? Se fa gli stessi danni che hai fatto, li uccidi tutti e due. Se fa lo stesso che ha fatto in questi... c'è anche Damasco adesso, Sì, ma io non è che sia tantissimo forte. Ho già... Una cosa, così. Tu ne hai, quasi 10 più. Ne ha 60. No, nemmeno, ne ha 50 qualcosa, Pierre. Mamma mia, ma che lagni di giocatori che ho. Che lagni cosa? Guarda, io sono a metà della mia vita, Sono curioso di sapere il CR di questo scontro. 18. Visto che siamo dei CR12 noi. No, neanche, perché non ho neanche le equip io, quindi ti ricordo che si abbassano tipo il ciascuno di voi è un CR12. Ah, giusto. Ah, giusto, è vero. È vero. Con un cunetto. Quindi siete 16 totale. Vabbè, ho capito, ma lo scontro, no? È contro l'incanter level e contro il livello medio dei giocatori, no? Sì. Non il CR, ma l'incanter level, allora. Beh, conto che poi noi siamo di 12, ma siamo in realtà di 11, perché abbiamo le equip da NPC. Sì, infatti. Beh, equip, no, equip già, che qualcuno non no, ha. No, già un livello in meno. Già un... Equip che qualcuno non ha. Il conto. Quindi. Boh. Scusa, ma cioè, non so cosa fare, sinceramente. Toccherebbe a te adesso. Sì, sì, tocca a me. Senti, fai. Ma c'è anche in famiglia, quelle robe lì. Sì, sì, ma in famiglia faccio ace. Sì. Davide, te ne spostaci qui. No, facciamo. Di certo è meglio che stare tutti in grapple, sì. Però poi reagiscono di nuovo i ragni. Si rigrabbano. Sì, facciamo il full round. Cioè, tutti sono tutti full attack. No, sì. Solo tu glielo riesci a fare così. Però tu non lo tiri giù. No, perché lei ha appena agito. Lui l'ha. Io shotta. Non lo tiro giù. Io faccio 4 attacchi. Devo crittarne almeno 2. Compreso Ace, fai 4 attacchi. Devo crittarne almeno 2 per tirarlo giù. Sto pensando a una cosa. Ma smettila di pensare, ci ho rotto le palle. Ci hai rotto le palle. Ma se devo fare 2 crit, ma dove cazzo li tiro fuori? Cioè. Vabbè, non sono impossibili, però. Ma devo confermarli. E ho almeno 2, capito? Sì, no, fate cose impossibili. Non so cosa fare. E se gli faccio invece quello che lo fa scappare? Che gli faccio il guido? Ma è immune mind effect, che non è morto. Morto. È un morto immune a tutto l'immaginabile possibile. Non i critici, però. Io ti metto una cosa. Dimmi. Boh, non so cosa fare. Mi sembra l'unica cosa teletrasportarmi là, perché cominciare a evocare, boh, ora che arrivano sono tutti morti. Sì, probabile. Almeno proviamo a fargli dei danni. Scusa. Sicuramente questo qui non attacca le mutazioni, secondo me. Quando mi trasporti lì posso fare invisibility? Che io direi... Cioè, sì, ma devi essere il turno, però. Ah, no, così li prendo lo stesso. Così. Ma se non prendi danni, muore lui. Cioè, è meglio che li prendi. Secondo me muoiono tutti e due. Boh, non so. Oppure mi concentro su Damasco. Che è l'unica cosa che... L'unico che può tirarlo giù alla fine, Damasco. Beh, oddio. Ha avuto fortuna, Ho capito, allora ci dobbiamo arrendere? No, però dico, non è così diverso rispetto agli altri. Non so. Beh, la CA touch è 25 circa. Sì, è la CA normale è 32 passi. Bene, dai, quindi... basta, facciamo così. Mi teletrasporto tutti di là e via. Faccio haste. E che dici? Damasco, aspetta. Scusa. Mi metto qui. Non ce l'avete trasportarci tutti assieme, no ground? Sì, sì. Adesso fa una cosa bruttissima, io me lo sento. Allora, aspetta. Qui c'è E. Qui c'è B. Qui c'è D. Qui c'è A. E avete tutti ace. Bocca al lupo. Nel dubbio io sono invisibile, cioè. Faccio un passo da mettere. Ma tu devi essere in mezzo, scusa, se no facevi essere a contatto con E. Basta che si tocca tra di loro, non ho capito. Ah, giusto, è vero, sono qua. Faccio un passo a mettere in mezzo e vado lì. Sì, sì. Ah no, perché ho dovuto spostarmi, quindi no. Faccio un passo da mettere in mezzo in avanti. Ma non ti serve. Vabbè, fallo. Credo tu voglia fiancheggiare. Sì, tanto so che non ci riuscirò, no, però nella speranza. Lo so io. Scusa, come and get me. No, scherzo. L'unica cosa che posso fare... Cioè, se non entro in ira, non lo prendo mai. Se entro in ira e mi manda a zero... Ma no, entra in ira. Entra in ira, scusa. Se no, l'alternativa è essere completamente inutile. Esatto. Mi incazzo come una bestia. Dai. Ma poi guadagni un sacco di PF se entri in mira. Arriva a 76. Così vai infatti, giù con un attacco. Non so, adesso è un full round almeno. Vai. Ecco. Non lo prenderò mai, è un 33. 33? 33, colpito. Tirato 10, bene. No, ho sbagliato, guarda il mio. 24. 24 danni. Ok. Secondo attacco con Ace. Cazzo, mancato uno. 12 più... Più... Qui... No, più... No, perché meno 2 non ce la faccio. Vabbè, fai comunque il conto. Eh no, ma faccio 25. Compreso l'ace. 26 con l'ace. 25, 26 mancato. Vabbè. Quarto attacco. 17, minaccia di critico. Sì, ma quanto sono? Vediamo. 17 più... più 10, 27. Allora lo manchi. Anche se minaccia di critico lo manchi. Più l'haste l'hai contato? Eh sì, ma c'ho almeno 2. C'ho almeno 2. Anche almeno 2. Sì, ma l'hai contato l'haste. No, adesso non ho contato. Ma l'hai contato il più 2 a tutti i tiri ai danni di eroi? Ah no, è vero, lo contavo adesso, scusami. Perdonami, cioè... aggiungi 2 danni. No, ma è come se non ci... Esatto, aggiungere 2 danni per ciò eroismo. Mi sono dimenticato. Ma questo tipo potevi... No, no, perché col meno 2 vado in pari. Perché? Vai in pari. E sono 27 più 98 di haste. Perché c'ho un meno 2. Sono molto male. Ma quanto sono il tiro per colpire? Gravemente mi fa... All'ultimo. Bastardi, mi avete stancato! Ok, 10. Adesso uno. Si trasforma. Okay. 11. Luke, perché in realtà eroismo viene annullato dal fatto che sono... Eh sì, ok. Importante è anche lui va in ira. Quindi yeah. Bon 28 no, fallito. No, posso fargli un altro attacco con la Chloe in realtà, perché ho una mano libera. Cioè. Vai. 20 naturale. Un po' rotto il cazzo però, cioè. Che figo, vediamo se non lo confermerai mai. No, potrei fu il massimo del bonus, potresti confermarlo. Che culo. Cazzo, che culo 15. 15 più? Più 25. Che culo. Incredibile. 40? No. Sì. Sì, 15, 15, 40. Confermarsi. Vabbè, sono 2 di 4. Sì, certo. Che culo bestiale, allucinante. Sono 5 più 28. Minchia. No, 28 per 2, scusami. Ecco. 28 per 2. Eh sì, no. No, Ciccio. 28 ho sbagliato. 5 più 28. Ho guardato il falchio. No, ho sbagliato. 5 più 28, giusto? No, no, aspetta. È una volta solo la forza. Ma hai contato che non è al massimo, ma meno 5 comunque. In che senso? 35. Dopo l'attacco tirativo. Comunque la colpito. Comunque 35 colpito, sì, è vero. Niente. No. Contando anche il meno 2. Però c'ho il più 2 di heroism. E quindi si fa in pari. Uccidi il monaco trippone, ma ammazza tutti quanti. Aspetta, che non, perché non mi ricordo qual è il... Quanto sommi la forza? No, perché ce l'avevo sulla scheda qua, che non lo sento qua. Guardo subito, ragazzi, scusate. È un attacco naturale primario, però conta come... Cioè, se perché hai detto certo? Che figo, che culo, solo con solo questo 20 poteva uccidere questo boss e i due 20 consecutivi suoi e basta. Adesso è preso male, siete. Ma cosa? Non è così forte. Cioè, stai scherzando, gli ha fatto 70 danni in un round. In un altro round uccidevi loro due. Beh, c'era 17. Lui è c'era 17 sì. Con i due ragni. No, perché adesso ci sono pure i ragni da far fuori? Che cazzo se li ricordate, i ragni di merda? Scapperanno. CR17. Ma i ragni contano nella farraccia di montagna. Avete ucciso un CR16 più mille cose prima, mi sembra equilibrato. Con certe sì, difficoltà. Che abbiamo perso un'arma, ti ricordo. Sei d'accordo che questi tre denti ci hanno salvato la vita? Vabbè. Fai così. No, non me l'ha passata l'immagine. Sì, certo. No, volevo fargli fare una cosa strafiga. Meno male che... ricordi logico. Dai, comunque è morta. Cosa stai cercando? Ma infatti che cazzo il stai... link quello che mi hai inviato. Ma Simone, ma sommerai la forza a sto cazzo di morso. Solo quello. Cioè, non mi ricordo se è solo quello. Sì, la forza e basta, sono le unghie comunque. Quindi è 31 meno 10, 10 danni per 2, 20. 20 oh. Più 5 danni, 25 danni. È morto? Ok, devo controllare. Oh. Mi sali sì, anzi quasi sicuramente, vediamo. Mi ha messo così male. Ah, scusami, 80 danni. Scusami, c'ho un D6 di fuoco. C'ho anche un D6 di fuoco. Un attacco. C'ho un D6 di fuoco, gli faccio 5 danni. No, in teoria, se fossero stati almeno 10 gli avresti recuperato un PF. Però non ti fai niente. Scusa, è super mastro mega fuoco. Ah, già, già. Mastrolindo del fuoco. Sì, è morto. Mastrolindo sì. Te l'avevo detto che c'ho il culo a capanna. Sì, tacci, che culo di merda. Stai zitto, cioè, guarda. Dice, sì, tacci, culo di merda. E poi muore. Non è che muore, diventa una nubetta gassosa. La lampina funziona così. Allora, un vampiro? Sì. Infatti per quello non mi avete fatto fare una cosa strafiga. Che voi eravate in fin di vita, lui doveva mordervi, uno di voi diventava un vampiro spawn suo, poi lui moriva e quello lì restava un vampiro free will. Oh mio Dio, Fabio! Il vampiro, cazzi vostri, avete voluto uccidere lo spawn di critici? Cioè, restava un vampiro uber forte, quindi ci potenziamo. Sì, uno di voi diventare un vampiro, invece no, cazzi vostri, sono oh, adesso io vado lì, prendo la testa. Faccio enerdation e lo curo. Fagli quei cazzo di cose di fuoco. È vero, i bacillanti di fuoco. No. L'altro è appunto sì, perché poi lui recupera cioè, il fatto che poteva fare grappolo con una watch gli consentiva di, perché lui per mordere deve tipo entrare in grappolo e poi pinnare. Ah. Però in quel modo poteva fare un round sole. Ma se no, sì, quindi ma non resta il fatto è che corpo. Uno di noi si mette calcio. No, non resta il corpo. Cioè, io non posso andare lì, attaccarmi sui denti e fare così. Sì, perché si capisce. Cioè, il suo casa a terra. No, diventa una robetta gassosa che tipo va a rifugiarsi in una bara che c'è lì vicino nella stanza. Quindi dobbiamo fare fuori anche la bara, perché sennò lo si ritira. Mi sa che prima dobbiamo concentrarsi ragni. Dobbiamo uccidere i ragni, esatto. Che si tenesse un po' male. Beh, lui si rigenera. Immagino che i ragni saranno molto contenti. Attacco con l'acqua. Che culo, che della, culo Madonna. Della Madonna. Bravo, però che culo. Cosa t'ha detto? Lui ha detto, quando tu gli hai detto tutto, tu c'è ma stai zitto che culo di me. Ha detto proprio così. Non me, io ho detto I'm back bitches. Lo spirito di Agoroth. Così impari. Rompimi ancora l'arma che ti faccio più attacchi. Il critico con la clone non si può sopportare. Ma sai perché ho fatto la clone? Perché non avevo la mia arma. Altrimenti non c'avevo la clone. Hai visto com'è il mondo? Ah, mettiamo combatti sempre con culo, eh. Ecco. Quasi. Madonna, che roba. Vabbè, allora, quindi adesso a chi tocca per i ragni? Dici tu. Tocca a voi. No, aspetta. No, tocca ai ragni. Tocca prima a Eleni. Ah, grande. Hai il culo a strisce. Cioè, io ho più attacchi qui. Che se vuoi, puoi fare... No, vai. No, dimmi. Ah, no, aspetta. No. La damage reduction. No. È ancora vivo. Minchia, sei ancora vivo. Seriously? No! Ok, mordimi. La bara si riapre in speed motion. si riassembla, lei che più torna sopra. Ma cosa è successo? Ma déjà vu. Oddio. Beh, ma i primi attacchi l'avevi tolta però, Solo al suo. Al suo no. Al suo no. Solo al suo no. Quindi è morto. No, anche al suo no. Cioè, a suo critico non l'ha tolto. Anche agli 80? Sì. Quindi è ancora vivo abbastanza. Quindi ci sta c'avrà un'altra ventina di PF. Sì, sta bene. Cioè, nel senso... C'ha un'altra ventina di PF. Beh, oddio. Una ventina... Sì, circa. Esatto. Per dire, no? Beh, allora tocca a lui. Faccio l'altra clou, scusami. No! Non c'è un'altra clou. Ma c'è ma siamo morti. Siamo tutti morti. Davide, siamo morti. Allora, potevi criticare due volte, no? Certo! L'ho disegnato. No, non lo disegniamo più. Cos'è sto rewind? mi sono sbagliato. No! No, ormai era morto, basta. Ma sono giusto il suo turno, me ne sono accorto, se no per punto hai detto cazzo, vabbè, ormai è morto. Invece no. Invece no, sì. Allora. Vabbè. No. Tu quanti PF hai? 35. Meno. Stacca, no, meno. Perché meno? Ne ho 74, sono 94, sono 20. Allora pochi, sono 20. Minchia. Un attacco, vabbè. Spero di attacchi, mi attacco. Però sei critta, sei morto. Sì. Ah, prova a entrare in grapple con te. C'ho il camminghetto. Con chi? Con lei? Sì. Con chi? Entra in grapple. E ci con riesce. Te. Quindi prova a pinnarti e fa così. E prova a secchiarti il sangue. Che figo. Ci riesce. Ok, prendi quindi... Ah, minchia, ma tra l'altro... Vabbè. Cosa? Riesce uno stallo. Cosa? Per vostra fortuna. Cosa? Che faceva anche uno slam attack alla fine che faceva due livelli di... Due livelli negativi. Vabbè, poi, cioè, questo cos'è? C'è 17, cioè, certo. Cioè, 17 da me è blindato, è diverso. Certo. Ovvio che non è come il cioè, 17 del manuale dei il manualino del Your Dead is NPC, esatto. NPC Codex. E ti prendi? Il manuale degli stronzi, però. Un danno alla costituzione, ho tirato uno. Però comunque prendi 10 danni. No, 13 danni. Cioè come se prendessi 13 danni. Vai. Ok. Quindi ho più 2 danni alla forza e più 1 alla costituzione. E lo vediamo emergere dal collo di lei con i canini grondanti di sangue. Sì, esatto. Sangue blu, perché tu sei... Sì, sangue blu! No! Cosa ne sta facendo? Posso fare una prova per capire adesso? Sì. 21. Vabbè, dai, capisci che è un vampiro. Che è un vampiro, dai! Non capisco. Tocca a te, comunque. Lo sanno tutti. Com'è? Che non siamo commestibili. Però sei in grappolo. Ah, e quindi... E poi fai l'attacco. Sì, perché è una mano a mano. Posso fare Black Tentacle? Ma è solo la tua? No, no, picchialo tantissimo. In grappolo non puoi fare incantesimo. Allora no, devi picchiarlo e basta. Menalo. Full attack. Prova col almeno, magari un attacco col con lo shocking blast. Full attack, quindi vuol dire senza paura. Non può avere incantesimi. Non può avere incantesimi. C'è anche solo con una DC. Col paura. Cioè, non neanche solo in canale in questo caso, quindi. Sarà meglio con no, nome. senza. Ascolta un attimo. Ma quant'è la DC in grapple? Se fa un incantesimo di livello 0? È 15. Più 2 livello di incantesimo. Posso fare... Comunque non può fare light. Recapitare? No. Ah, vabbè. Posso fare l'acido? Sempre sbagliato. Perché? Perché si può fare solo il target e object, cioè, quindi non puoi attaccare un mago. Vabbè, è un cazzo da altro livello zero, fatta apposta per cui non si può fare, cioè ovviamente. Sì, e guardi, Magus non ha nessun incantesimo di livello zero con target creature, infatti. Sì? Cioè, vabbè, object, gli miri all'avambraccio. Attacchi l'oggetto se vuoi. 29 più haste. Attacchi l'armatura, attacchi quello che vuoi. Hai meno 2. Niente, 28. Quindi niente, haste. Mancato 28, tipo. Sì. Quindi basta, solo un attacco. No, puoi fare il full attack. Una mano a mano. No? No. Lasciamo stare? Cambia il dado, hai preso quello nuovo. Ma non hai fatto haste? Sì, che hai fatto. Sì, l'ho fatto. C'era ancora uno. Ma mi hai detto che me lo tolgo. No, è il bonus di haste col meno 2. 20. Vedi che usai il dado che ti passo. Fatto 20 sul dado. Sì. Vedi che a usare il dado che ti passo funziona? Usa questo. È veramente un po'. Ma è il primo, dai! Devo confermarlo. No, non è il primo, è tipo il quarto 20 che mi fate. No, non è io ho detto. Io ne ho fatti solo 2 Devo oggi. Confermarlo, no? Sì. Sì. Sono stranamente. Ma tanto non confermerai mai. 8 più 19. No, infatti, però che cazzo. Vabbè, colpisce. Però. Vabbè, comunque un D6 più qualcosa, no? Sì. È un D6 più 16. 20 danni. E ho ancora tutta la giugolare aperta. 20 danni? Ok. Sì. Tiri... 20 danni. No. Certo, quindi sì. Una decina di danni. Ok. Anche e... meno. Sto figlio di puttana. A chi tocca? Continua a succhiarti il sangue. Ah, perché è surround. Perché non attacca? Vuoi che ti attacchi? Se vuoi attacca te. Fa un full attack. Se ti attacchi, va bene? Avendo il cavenghetto poteva pensarci. Se confermavo fa altri 2 danni alla costituzione. Aspetta, mi sa che vai a 0. Aspetta, 87 perché tipo aveva 87. 20 PF, gli hanno fatti altri, adesso gli hanno fatti altri 13, gli ho tolti tipo una trentina con, per colpa della costituzione. Sì. 100 okay. Sì. E il resto no, round si aspetta, che no, è a meno 6. Sono a meno 6. E a meno 6 e a quanto la costituzione? L'altro round. 12. Fa 4 danni a costituzione, quindi ciao. Ok. Sei morta. No. Diventerai un suo spawn, diciamo. Al prossimo turno. Ti prego, uccidetelo. Spalletto nel cuore. Anche tocca. Capiccio. Vuoi dire in quanto tempo diventi suo spawn? E cosa vuol dire che diventa un suo spawn? Che ha i suoi ordini? Ma hai i suoi ordini, nel senso? Finché lui è vivo, sì. Altrimenti può diventare. Uccidiamolo, libero. Per favore. Uccidetelo, per favore. Che figata. Quindi tu sei una nostra nemica dal prossimo turno. No. Vabbè, però, finché è vivo. Critico. Quindi muovetevi. Morta. Cosa stai facendo ancora? Devi toglierti, ok? Cazzo. Sì, vabbè, sto dai, guardando te. Vabbè, adesso dove abbiamo un'altra occasione. Tocca a... ai ragni, forse. No, no, prima ci siete voi. No. Vabbè. Damasco. Tocca a Damasco, mi pare. Allora. Faccio sognare. Sì. Cazzo. Io mi no, cioè io sono lì. Posso mettere in mezzo se vuoi. Da qua non più, sì, infatti. E qua per forza. No, ma comunque penso ci voglia un po' prima che lei si riprenda come suo. Ah, meno male. Ragazzi, io sono qua. Mm-hmm. Ti posso di là. Di qua. No, di là che sei più, più lontana. Ma se ce l'ho in mezzo io posso. Ah, è vero. Perché lui è largo. Però secondo me se tu ti metti qua. Pom, pom, pom, pom, pom. Sì, mi sa di sì. Tanto mi sposto di qui. No, oddio, potrei anche fare così, no, perché tanto è un mio angolo che devo prendere. Ma non puoi qui, ti stai a quella distanza, quindi qui. Quindi faresti più passi. Mm. Se tu sei qua, secondo me se ti muovi qua. Di così dici? Lo pre. No, lì non puoi. Cioè, perché sei un quadretto. Cioè, qua sostanzialmente, qua. Esatto. Secondo me ci sta. Sì, perché comunque io devo prendere un quadretto. So, yeah. Ci può stare e lo prendi. Ma sta Wayne. The Savior, sei tu the Savior. Savoiardo. Qua guardati che il primo lo devi, quindi sbaglialo. Se io prendo questo angolo, comunque lei la vedete morire, tipo comunque già non sapete. Certo, queste cose. Se io prendo questo angolo, lo vedo, posso colpire. Ma c'hai scimitarra. Sì, ma c'hai luce più 4 la CA. Mi ha rubato il cura e vuole prendermi anche la scimitarra. Sto per urlare, ma perché? Taccio perché non vedi tutti i suoi angoli. Che tenero, grazie. Quindi, se io e invece se resto qua, è peggio, lì non vedi niente. Beh, oddio. No. Scimitarra che kunai. Scusa, ma lui è large, no? Quindi Baka posso anche prenderlo. Ah, perché tu dici vedi in alto. Sì, ma non conta. Non si, non funziona così. Perché ne viene quante ha, cioè... Oddio, Baka però in effetti è medium. Sì, ha solo più 2 alla CA. Ah, più 2 alla CA. Quindi così posso prenderlo da qua. Cassius Clay. Da qua. Da qua. Sempre più 2 alla CA. Vabbè, però... Ma non prende attacchi d'opportunità lì? La range. Scusa, ma resta lì. Cioè, da lì a lì che cosa cambia? E più, qua più 4 alla CA. No, ha sempre più 2 lì. Ha più 2? Sì, sì. Vabbè. Spazio al cuore. Dai. Ci proviamo. Devi colpirlo 2 volte, perché se lo colpisci una volta... La devia. Il primo è vero. Vabbè, ma io gli faccio 6 attacchi, no? Certo. Vai. Quello. Vuoi quello rosso? Devo, certo! Vabbè, tanto lo deviava. No, aspetta, non è no, detto. No, no, no, devia il primo più che colpisce. Eh sì, eh sì. Ma infatti, ma scusa, ma fai questi qua, più 19 magari, cioè. Sì, ma poi... Sì, dai, vabbè, per più forza. 19. 21. 21 mancato comunque. Esatto. Vabbè, però, cioè, è un'altra più 19 adesso almeno. Tiro il suo? Prova. Prova. Oh, invece! Lo devia comunque, lo sta via. No! Confermare no! Sì. No, non può deviarlo. Sì, lo devia. Scusa. In questo proiettile sei più buggito quando spari. Dai, ci vuole un altro 20 adesso. Ma dove è? Dai, un altro 20, dai, faccio. No, uno. Beh, deve essere in medio, scusate, uno, non è che può essere. Uno, dai, due, tre. Fallimento automatico. Ne ancora uno al massimo. Forza. Niente. Niente. Più no. 8 più 14. 22. Quindi no, 5, niente. 6 ne ho adesso. Più 9. No, niente, è mancato, no? È ancora uno, no? Più 14. Ok, ma sono a più 4. Cioè, ho fatto 4 tiri. Devo farne ancora 2. No, qua hai meno attacchi, ovviamente. Sono più alti a tiro per colpire. Ma non posso integrarli con questi? Allora, cioè, o fai a più 19 o fai a più 15, cioè non è che puoi integrare, cioè cosa c'entra, nel senso, vuol dire integrare. Che palle! Lui ci ha provato. C'è ancora un attacco. Vabbè, più 9. Vabbè, fai il 20 magari, dai, credici un po'. Ecco, non ci ho creduto, vedi? Così impari a trovare falsi dei. Quindi niente. Falsi dei. Mamma mia. Prova questo. Che tiri. Prova. A parte i 20. No, deve toccarlo 19! 1! Bene, quindi niente, 15. Giusto, nulla di fatto. CD nulla di fatto. 16 è uscito, hai visto? Io mortale. Tu sei morta. Come sei stata morti? E la proprio domanda di fare a Baka se sei ancora viva. Vabbè. Io colgo la scimitarra. Che cazzo di CA sto tipo? Chi tocca? Ai retriever. Sai che se mi rubi la scimitarra poi te non le posso, guarda che prendo la scimitarra, cioè. Ecco i golden retriever. Tanto adesso tocca a lui, fa il full latta che probabilmente mi killa se non lo uccido prima io. Ok, tocca il retriever, quindi che attaccano. Cioè, se non lo uccido sono morto. Lui dice, deve esserci qualcuno di invisibile, cercatelo! Perché, cioè, li hai teletrasportati quando non li hai. Certo. Sono io che sono mai a teletrasportare la gente. Ci credono faccio tutti. Faccio una prova di... Bleffissimo. Quindi usano Bisogna usare una standard action, penso, per fare. Mi pare di usare una standard action per cercare la prima visione. C'ho meno 2. C'ha 9. Tipo contro, tu ti sei mosso, comunque sei in combattimento. Beh, non mi sono mosso, mi sono teletrasportato. Sì, comunque mi pare che in combattimento. Cioè, boh. Non sono in combattimento. Ma è vero, non ti sei mosso, hai ragione. Quindi niente. Cioè, più 20 comunque. Ah. Allora, stealthy, quindi devo fare una prova 40, di 40, non mi ricordo. Sì, fa una prova di stealth. Se non mi muovo è più 40. Aspetta, adesso vedo. Metti in sedia al dado, fai. Ok, vabbè, non ti vedo. Sei, guarda, sei più 20 o più 40. Comunque controllo. Più 20 ti vede uno. Ah. Dai, devi fare anche il ma dado. Ma devo fare un tiro, scusa. Di stealth. Prova a farlo. Prova a farlo. Sono marci il dado più le stealth. Aspetta. Non mi sa che è più 40. Dai. Vabbè, prima faccio il tiro. Dai, vedi, se fai tiro alto. 19, ok, niente, però ti cercheranno comunque. Mm-hmm. Ok, ora? Fanno comunque dei raggi, non crediate. Fanno un raggio su, fanno dei raggi su Damasco. Fai tiro salvezza riflesso. No, devi farcela. Ce la fai. Però non dai, 15 più 7. Io l'ho superato. 22. Un altro? Sì, fai anche l'altro. 17 più 15. Ok, tranquillamente. Datemi un po' di sei. E a me non servono più. Per adesso. Cioè. Vabbè, no, ma per dire che adesso non mi servono, quindi potete. Cosa fai? Se you gain più 40 bonus on stealth checks. Tre, se sei immobile. 6, 7. Che stai facendo? Ehi, comunque devo tirarli. Devi utilizzare. Sto moving. Ah, 6, 8, 6, 14, 16, 3, 19. Tu vampira. 20.8. Non so quanto sia forte il vampiro come. Cioè, 29, un botto di punità 21, e poi. 3, 34. Difficile 22, da curare. Sì. Però. No, ma lascio il vampiro. 16 danni. Cioè, non è una cosa negativa. Che sì. No, infatti è forte, fortissimo. Cioè, poi forse c'è anche dei malus. Cioè, guarda questo di quanto è forte. Ma c'aveva dei malus anche forse, no? Sì, c'ha dei problemi a essere curato. Questa luce del sole. Probabilmente ha lo. Non viene avere una bacchetta di infernali di linda. Sì, sì. Beh, ma tanto siamo un luogo chiuso, quindi. Il mio problema sarà. La nave. Sì, non ti preoccupare, si trova un modo. Lo tieni sopra un cappuccio con gli occhiali da sole, che ne so. Diventi il Michael Jackson della nave. 32 33. La tua caratteristica 56 20 danni, comincia a brillare. No, ti prego, abbassa. Sei vero, abbassa. Bella. Il vampiro suicida. No. Ero 51 meno. Dico, no, tu sbrilli. Mi giro verso di lui. Sì, lo davvero ammazzo. Completamente. Ma quindi. Oh, quindi adesso è pieno di pathos la scena. Perché ti io sono a 15, ragazzi. Vorrei dirvelo, sono tutti sulla stessa barca, tranne me. Quindi siete. Strano che il God se la fugge. Non è da God, però. Che stare invisibile con Invisibility Greater. Non è da lui. Non è Invisibility Greater. A chi? Greater dai, a chi tocca mo? Voglio uccidere lo sto stronzo. Tocca ad Avram? Cazzo, sì. Allora. Non c'è una cosa di fare dei fa danni. È vero, ogni tanto sarebbe utile qualcosa che fa dei danni. Cioè, tenitene almeno uno. Avevo infatti pensato di andare lì a fargli Frostbite, però è purtroppo immune ai non letali. Alfredo, minchia, se l'ammazzai con il se l'ammazzavo con il Frostbite mi pagavate. Tipo, no, sta imperando su tutti i vostri cadaveri. Lui ha detto pom, colpetto sulle natiche, pam, 20 danni. No, purtroppo immune non letali. Non lo so. Evoca. Siete morti ora che arrivano. Infatti, ora che arrivano siete tutti morti. Non sarebbe male di trovare un vampiro, però. No, adesso fai bene. Adesso uccide. Round bonus una volta sola. Beh, round bonus, insomma, quando lei si sveglia, cioè, non so quanto ci mette, lo sappiamo. No. Ok. No, diceva lui che mi metto a brillare. Se mi metto davvero a brillare, ammazzami. Cioè. Brilluccica. Brilluccica, no. tipo Edward Cullen, cioè. Aspetta, fatemi pensare un attimo. Non sarai più la stessa. Bella. Posso farti fare un Là. Se le faccio contingent action, le dico prepara l'azione quando lui attacca qualcuno, colpisci. Anche se lei ha già agito, funziona? Sì, certo. Potrei fare così. Ma infatti contingent action c'è cosa per far attaccare, no? Sì, certo. La mia scimitara ce la facevi. Questo no, modo tu faresti un attacco, se lo colpisci, l'ha già deviato quello viola, lo fai al massimo del bonus. Okay. Potrebbe essere un'occasione. Sì. Mi sembra la nostra chance migliore. Va bene. Io sono morto. Un attacco? Mio non si lega le persone, okay. Solo i metti sono caldo. Vabbè, coso il mio corvo vi fa rage. Che su di te non ha nessun effetto, però tutti gli altri prendono più uno. E tutti gli altri solo lei. Più uno, sei vero, solo tu. Prendi più uno, no, però tu non ti basi sulla forza. Scherzavo. Scusa, fagli... Vabbè, non serve... Vabbè, te lo con dei BF fagli, che è debole, è poco BF. No, dai. Ma fa comunque, però ti dà comunque più uno a costituzione, più due a costituzione, quindi prendi un po' di BF in più. Blood scente. Ma c'è un'azione standard per farlo. Ah, ok. E non può farlo il corvo? No. No, comunque in teoria, ho letto adesso, il vampire spawn è un CR4 fisso, non è un template che si applica. Ah. Dovranno trovare un modo per riportarti normale, mi sa. Quindi no, non ho capito in che senso. Quindi è morta. Cioè, è un vampiretto. Un vampiretto. Ah, cioè sei... Cioè, sono sei un vampiro ma non ho nessuna agevolazione. Cioè no, sei molto più debole, semplicemente. Sì, una pippa strapippa. Perché? Scusa. È così. Vabbè, potresti ausrularlo. Dai, facciamo. Può sbattere da gestire un vampiro meglio se in qualche modo la riportate normale. Ma basta che dici che è un vampiro, ma in realtà non comporta niente. No. A parte che brilla al sole. No. Ma ancora, che è una brutta non voglio punizione. Brillare. Allora, Avram, per il turno. Sembra la nostra chance migliore. Le faccio contingent action. E può fare un attacco quando lui attacca. Quando lui agisce. Facciamo così? Quando il cattivone. Ok. E vabbè, cioè, faccio rage. Che mi dà? Niente. Un bonus a costituzione. Qualche PF in più. Anche a te. Ma no, a te no. A me no. A me sì. No, a me no. Però se casti non hai più il... Non so se è ancora più 40 se casti. Scusami. Fai più 20 a quel punto, no? Sì, esatto. Con la mia Anche Swift Action... devi usare parole se c'è un componente verbale. Sì, sì, sì, sì. Con la mia Swift Action mi teletrasporto in aria di 6 piedi, cioè di 6 quadretti. E non cadi? In alto. No. No, 3 quadretti in alto, uno in diagonale... Anzi, 3 quadretti in alto e 2 in diagonale. Sì, sopra Damasco. Okay. Sopra Damasco circa, sì. Ok, Baka. Faccio io, tra. Full attack. Full merda. 32. Contando tutto. Seriamente? Non si hai dimenticato proprio niente. Aste. Aspetta, eroismo. Egoism è più 2 solo che sono shaker, quindi meno 2 si annulla, più 1 di cosa 32. Di haste più 0 di nient'altro, cazzo di cane. E ho dato un 7. O rage, quello che ho fatto io adesso. No, perché non ha effetto su di lui. Non fiancheggiare un cazzo, no. E niente, è mancato. Secondo attacco con haste al massimo del bonus. 20. 20. Sounds good. 18. 18. Boom! Confermato. Muoveci, stronzo. 4. 44. Ma questa è la clone. 44 gatti. No, 44 danni. 44 danni. Col kunai, se posso, glielo piazzo in gola. Quanti danni? 44. Glielo piazzo in gola e glielo faccio uscire dalla faccia. Stavolta per davvero. Oh, è la seconda volta che ti ammazzo, stronzo. E non tornare più. Questa cosa diventa davvero una nuvoletta che va a rifugiarsi nella sua bara. Ma è morto? I retriever, come lui muore, ma sembrano essere confusi, no? Si guardano, non capiscono che comandi seguire, perché evidentemente erano in qualche modo legati ai suoi comandi, e come lui è morto. Cioè, anzi, probabilmente il loro ultimo comando è trovare la persona invisibile, quindi il loro massimo titolo poi non fanno più niente. Ah, questo è quanto. Ah, quindi succede così? Sì, potete saccagnarli in modo. Mi trovano e si disattivano. Esatto, così no. Bene. Come uccidete? Lui è nella bara, chiaramente. Cioè, voi dovreste ucciderlo dentro la bara. Esatto. Perché sennò lui tipo dopo un po' di giorni. Il caficchione nel cuore. Dice. Ma come la battaglia termina, dalla parete entra una... quella che sembra essere una non morta, no, armata di katana, così no. Che... ed è sua sposa, non mi dire che è la sua sposa, no, perché... avvolta da una coltre di ghiaccio, giustamente. Il fuoco le ghiaccia. Non me li prenderò mai più. Alla sorella, alla moglie, la fidanzata, l'amante, che cazzo è? La concubina. Solo che purtroppo non mi ricordo... Comunque sai anche perché è così difficile sta battaglia, anche a George. Sì, tra l'altro. Beh, si sente, eh. È notevole, sì. Vabbè, poi vi troverò l'immagine, perché adesso non mi ricordo che bestiario è, quindi fa niente. Ok. Vi guarda, no? Così, tenendovi sott'occhio. Voi cosa fate? L'attaccate? No. Che okay, penso di no, perché... Siamo un attimo... Io non faccio niente, sono invisibile. Se lei mi vede... No, non lo so, amico. Non lo so. Fissa la bara sulla spalla, no, così salta via dal buco che ha aperto e corre via verso il deserto. Ah, è scappato. Se voi non fate niente, cioè lei ha spaccato la parete. Esatto. Minchia, che velocità! Cioè, non è che appena lui era morto, ovviamente lei era già lì nei paraggi. Cioè, stava seguendo. Ho capito. No, dobbiamo ammazzarlo. Perché sennò non si libera il demone col cazzo che abbiamo. Alla cosa. Beh, il demone è libero adesso, è morto quello. No. Non è morto. Sì, beh, conta comunque. Ah, ok. Per disattivare la cosa. Tant'è che i retriever sono tutti. Abbiamo. Finché lui resta una nubetta di gas nella lapide, non ha effetto il suo cerchio, il suo pentacolo, diciamo. Abbiamo mantenuto fedele alla nostra parola. Adesso pensiamo ai caduti. Come? Io parlo con lei perché tu non ci sei. Vabbè, io ci sono. Sono qui, idiota. Cosa? Io sono pieno, è morta? Sono pieno di sangue. Conferma, sì, se è morta. Cioè, tu sei pieno tutto, completamente tutto perché io di sangue tutto qua. Non hai giocato a Dragon Age, ma ecco, vi siete sporcati più o meno come in quel gioco, cioè con il cuneo tutto insanguinato e le clou che vanno a fuoco, no? Sono a 15 più schionati perché lui combatteva col fuoco. Beh, ma io sono di fuoco. Tu l'ho spennata? Sì, esatto. Il tre poteva fare catone, così no, però era una pimpa come attacco. Sì, cosa fai? Tu di 6 di fuoco. 6 di 6, cioè, come standard action, quindi. Beh, figo, ma... Esatto, era figo, ma... Magari io l'avrei potuto far fare, per fare il problema. Vabbè, allora... Eleni, faccio per toccare il collo. È morta. Io non sento il battito. O sta dormendo profondamente. Non saprei. Sodoma, controlla tu. No, a controllare Sodoma, ecco. È morta! Io sono ancora in Iver. Non so come uscire. Va bene. Segnerà. Calmati tu! E cosa facciamo, quindi? No, anzi, cosa facciamo, quindi? Perché sto morendo. Abbiamo riportato seri danni. Esco da lì. Perception per vedere se... No, esatto, ci sono porte segrete, cose così. No, in questa stanza non sembra esserci altro. Esco da lì. Più impiegate. Possiamo aspettare minuti, sì, un'occhiata veloce. Okay, aspettiamo il nostro amico. Esatto, arriva volando. Sì, volando. Bravo. E si ferma ampliando le ali. Entra dal passaggio che ha aperto la tizia. Non mi pareva di aver detto che avresti dovuto distruggere anche la mia abitazione. Non siamo stati noi a distruggerla, bensì una donna di ghiaccio. Capisco. L'altro generale si deve essere mosso. Ah, pensavo fosse la moglie. Tu generale. Beh, vedo che siete stati bravi, avete compiuto la vostra missione. Avevi dubbi? Morti. Avevi dubbi? Tipo. Ne conto 2 di meno, anzi 3 di meno. Ah, è vero. Abbiamo pagato un caro prezzo per mantenere la nostra parola. Ci è costata. Ora tu mantieni la tua. Certo, vi condurrò dove è tenuta la Sratite e risponderò a vostre 3 domande. In più ci sarà ricompensa bonus. Ah. Sì, avevo detto che c'era anche un altro servizio. Ah. Che però non mi dicevo. Ok. Ok. Però... Va bene, quindi ci sia la vita. Okay. Sì, ma ragazzi, Bacca, prendi il corpo di Eleni. Lo cago in spalla proprio. La katana, la sua spalla, intanto me la sono messa io. Si sveglia e ti morde. Vedo che in qualche modo tenete i vostri caduti. Interessante. Dice. Comunque, c'entra giù le scale. Tornate al primo piano. Vedete, boh, nel senso comunque lui ha sgozzato il nightshift che c'era lui. Ah, poverino. Stupido. E... Ma no. Scendete ulteriormente, scendete verso la base dell'albero dove c'è la sua tesoreria. No. Dove se fosse entrati prima avresti dovuto razziare senza dirgli niente. Vabbè, in caso. Ah, mi c'è vario oro, cose varie, tra cui la Sratite, che no. È presentata come, diciamo, una pietra, una sorta di cristallo. Grosso più o meno, alto fino ma quindi più o meno come uh-huh. questo tavolo. Un metro di... E sì, è largo due spanne. Ok. Okay. Sembra finemente lavorato. Sicuramente andrà bene per azionare la nave. Okay. E faccio una prova per saperlo, così. 16 più da 32, diciamo. Sì. Capisci tra l'altro che è asratite purissimo, una delle migliori. È davvero purissima, sicuramente... non ne ho mai vista di simile. Esatto. Cociamola! E già prima detto che bisogna mangiarla. La useremo con cura. Bene, attendo le vostre domande, dunque. Allora, possiamo discuterne tra di noi? Sì, fate pure, non ho fretta. Beh, la prima è come cuore, Eleni. Una mia... Quella può essere un'idea, ma ci sono... No, vi conviene chiedere preconoscere cose qualche incantesimo che risolva quella situazione. Non ho bisogno di lui. Al massimo potrebbe essere la cosa... Lui ha parlato di un altro generale. Sì. Potremmo chiedergli... Mi piacerebbe sapere chi è... Cioè, evidentemente ci sono due fazioni, una di non morti e una di diavoli, no? Bisogna chiedere, fare una domanda con attenzione. Mi piacerebbe sapere... Cioè, sarebbe interessante sapere chi è questo generale, o meglio, dove può essere trovato, oppure quali sono i suoi poteri, una roba del genere. Cercare di ambientarsi di più in questo deserto, insomma. Dobbiamo chiedergli quali sono, diciamo, gli schieramenti. Vabbè, una domanda sicuramente andrà dedicata alla nostra destinazione. Sì. Per la cosa che lui non sapeva dell'esistenza dell'impero di Smeraldo? Perché no, sono quello stati buttati giù alla direi fine che... l'impero di Smeraldo su. Sì. Può essere una buona spiegazione. Cioè, comunque... una idea potrebbe essere chiedergli come ho fatto a viaggiare così velocemente, oppure attraversare tra l'altro, ok. Questa potrebbe essere un'idea, una domanda che ci chiarirebbe le idee. Seppure non faciliterebbe l'esito della nostra missione, potrebbe facilitare il nostro ritorno a casa. Quindi, diciamo, come possiamo superare il muro, la situazione politica, militare di questa zona geografica e dove possiamo andare, dove stiamo andando. Sì, una domanda la farei sulla nostra... Destinazione. Sulla nostra destinazione, voi che cosa dite? No, tu sei migliore a muovere le parole, quindi mi sembra giusto. Lascio fare a te questa volta la mia diplomazia nel secondo. E cosa, come articoleremo la nostra domanda? Io gli chiederei, insomma, chi è che comanda qui e chi è che fa muovere le cose. Non ci interessa sapere la direzione perché la conosciamo. Ah, potremmo chiedergli... Ci interessa sapere magari qualcosa di più sul posto, la direzione la sappiamo, non sappiamo niente su da cosa. Che difese è presidiata, ad esempio, se quali c'è qualcuno, sono le leggende a riguardo, se c'è qualcuno, se leggende, cose sì, cosa così. Tre domande. Comunque sì, con una di esse potremmo approfondire questa guerra. Una domanda potrebbe essere generica, ad esempio raccontaci della guerra tra non morti e diavoli che ha infiammato queste dune. E dove siamo arrivati finora, diciamo, nella guerra? Sì, però lui potrebbe omettere qualcosa. Sì, certo, ma questo tanto potrebbe farlo comunque, ci affidiamo alla sua legalità. Non è una domanda, comunque raccontaci, Fa una domanda. Puoi raccontarci? Che sì. Una domanda andata. Beh, però se non lo fa, poi... Sì, posso. No. Si posso, addio così. Se riesci a metterla in forma di domanda, va bene. Chi sono i due schieramenti che combattono? Non è così ampio che dici tutto quello che vuoi, per quello sono tre domande. Se no. Certo. Perché si combattono i due schieramenti tra diavoli e non morti? Potremmo capire almeno il motivo della guerra. E se gli chiedo qual è la storia? Qual è la storia della guerra tra questi due schieramenti? Può stare? Sì. Che ne dite, ragazzi? È una buona domanda. Potrebbe essere qualcosa di introduttivo. Se c'è qualcosa che ci colpisce particolarmente, possiamo fare una domanda per scendere più a fondo. Esatto, partiamo con questa domanda, che è buona. Partirei con questa domanda, diavolo, l'hai sentita? Sì, mi sta bene. Molto tempo fa questa regione era abitata dal popolo dei Suni. Conosco loro... questo popolo. E non come pensi, forse. Bravo, studente! Non ha nulla a che vedere con la razza a cui tu appartieni, lo capisco soltanto guardandoti. Questi Suli erano adoratori di diavoli, dal primo all'ultimo, la loro religione non era altra, diavoli come noi. Tuttavia, la loro adorazione nei nostri confronti l'ha portata a stringere patti, diciamo, poco convenienti. Ho capito. E ci siamo lentamente impadroniti di questa regione, uccidendoli uno dopo l'altro. Il loro rancore nei nostri confronti li ha trasformati in non morti. Ah. E sono capeggiati da ora sono cappeggiati dal signore dei nembi, che fronteggia il nostro signore Taraka in una lotta per riconquistare questa regione. Ho capito. Il signore dei nembi. Che è quel lich. Mi pare che mi avesse detto che era un lich. Sì, no? Era il lich che, come anche, che diciamo, a capo del non morto che l'aveva trappolato. Esatto. Sì, sì, certo, a capo del trippone monaco. Esatto. Il trippone monaco. Di crack. Crack, il maestro del fuoco. Quello che fatto quella capa. Quindi sono tuoi antenati quelli che si frappongono tra i diavoli e la purtroppo io non ho una vasta conoscenza del mio popolo. Quindi, ok, abbiamo un'idea più chiara di quello che sta succedendo qui. Siamo di fatto in mezzo ad una guerra. Ah, scusa, quanti anni fa? Così per sapere. Cioè, ce l'ha detto? Sì, cioè, nel senso, no, però potrebbe aggiungerlo, diciamo. Mm. Sta a lui scegliere quante informazioni dare, in effetti, con una domanda del genere. Sì, certo, io volevo suonare... Però direi che è una roba che, alla fine, tra... Comunque, 1000 anni fa. Ah, oh. 1000 anni fa. Quindi è una guerra che è impazzata tantissimo. Proseguirei con la seconda domanda sulla nostra destinazione. Come la formuliamo esattamente, però non saprei. Cioè, non so che informazione potrebbe servirci. Noi sappiamo la destinazione, ma non sappiamo. Sappiamo dove troveremo lì. Sappiamo che potremmo. Cioè, dovremmo trovare, a quanto ho capito, ricchezze, in particolare molte asratite. Ho capito. Ma cosa troveremo lì in qualche Nemici, dici? Cioè, presidi. Non si può chiedere. Che potrebbe essere magari tipo la dimora del liccio, una cosa del esatto. genere. Sarebbe conveniente saperlo. Mm-hmm. Quali sorprese ci sarà la nostra destinazione? Così può dirti, può risponderti in modo molto vago, cioè. No, beh, però tipo da quali difese è presidiata la nostra destinazione? Potrebbe dirti non, e se non sanno risposta. Vabbè, però ti dice esattamente cosa c'è lì. Eh? Ti dice esattamente cosa c'è lì, al massimo. Cioè, non quello che c'è in mezzo anche. No, certo. Ok. Proseguendo. Aspetta. Ah, okay. Che dite? Sto pensando. Io sono morta. È stato lei che rimane ancora. Tu sei morta. Beh, secondo me una domanda potrebbe essere che difese presidiano il luogo della nostra destinazione e eventualmente quali sono le difficoltà che dobbiamo affrontare lungo il cammino, però un po' cioè vederti molteplici, ci sono diversi mostri, cioè le creature vabbè no, te lo dico un po' più specifico, ecco, cose particolari, cioè non scorpioni che incontro, tipo muraglie di fuoco che distruggono tutto, roba del genere, non so perché. Una possibile domanda potrebbe essere: quali sono le difficoltà che dobbiamo affrontare da qui fino alla nostra destinazione? Però potrei dire esclusa la destinazione. E comunque può rispondere sempre in modo abbastanza vago. È che io volevo riservare una domanda al fatto, cioè di come si attraversa questo muro di sabbia. Io direi che prima fai la domanda su cosa ci troviamo là. Esatto. E poi fai ci può stare. Che hai fatto. Quali sono i pericoli che incombono? Direi, da quale difesa è presidiata la nostra meta? Sì. Che ne dite? Sì. Io sono morta, ma dico di sì. Ovviamente spiegandogli qual è la nostra meta. Beh, già ne avete parlato quando lui vi ha indicato dove era questo posto. Sì, perché c'è una strada. Da quale difesa è presidiata? Proseguendo lungo il cammino indicato da quella stella, si giunge nel cuore del regno di Taraka. Ah. Normalmente, umani. E creature viventi non hanno il permesso di sostare nei regni dei diavoli. Con voi sto facendo chiaramente un'eccezione. In qualche modo, con un certo profitto, diciamo. Certo. Oltre, nel regno di Taraka effettivamente vi è una grande riserva di asratite. La più grande forse che esista al mondo. In ogni caso, oltre, non vi è più nulla se non un'enorme voragine. Scusa, allora, nel regno di Taraka quindi c'è... immagino che voi vi fermerete nel regno di Taraka. In quel senso. Quindi nel regno di Taraka c'è tantissima asratite e basta, non c'è più nient'altro? Ah no, voi beh, hai detto che il regno... tu gli hai detto da chi è presidiato. Da chi è presidiato. Quindi non ti dice cosa c'è nel regno di Taraka. Ti dice che c'è lui. Le difese. C'è Taraka, quindi. C'è Taraka e tutti i suoi scagnozzi, scagnozzi vari. Diavoli. Affiliati e quant'altro. Potremmo chiedergli come favore di lascia passare per entrare a questo. No, ma il favore è una roba diversa. Poi non ha questo potere. Cioè, non lo sai. Beh, questo è stato utile. Ok, quindi sappiamo che ci stiamo andando a buttare in bocca ai diavoli. Esatto. La terza domanda quindi, è bella, l'ultima. Sarà considerato difficile questo viaggio. Cosa? Sì, cioè è quel motivo per cui ci mandano i carcerati. Esatto, sì. Straforti e non tipo i generali. Il regno di... preziose. Sì, certo. Non abbiamo neanche un paladino con tutti quei diavoli. È vero, sarebbe stato comodo. C'era il mio uomo. Questi non morti, minchia. Cazzo, distruggeva tutti. Poi l'hanno ucciso. C'era il mio umano paladino. No, non è nessuno di voi. No, è morto. Era utile, poverino. No, ma l'ultima domanda che volevi porre era Rafiga. Sì, dite. Insomma, sì. Che ne dite di come si fa ad attraversare... Qual è la... come si fa ad attraversare la barriera di sabbia? Come si fa a tornare indietro? Così? Sì, ma è in generale possibile attraversare, cioè... Sempre che riusciamo un fine d'attacco. Com'è possibile attraversare la barriera? Una volta avuto successo nella missione potrebbe servirci questa informazione. Uh-huh. Io butterò nella voragine. Possiamo buttarci nella voragine, Baka. Magari è quella. Probabilmente si tornerebbe su. Il sotto e il sopra. Il sotto e il sopra. Certo. Le lezioni base. Vediamo se c'è qualcos'altro. Sì, poni questa. Io sono a favore di questa. Questa è un'opzione. Tu non la puoi votare, sei morta. Vabbè, ma io ho sempre votato, vabbè, scusate. Diciamo che vota come giocatore è così. Concordo. Un'altra opzione è le difficoltà che ci aspettano lungo il cammino, però... Beh, ma è molto vaga. Sì, potremmo poi anche... Comunque sarà molto conteggiarla passo per passo. No, grazie. Qualsiasi cosa si sfoga su questo cammino, la prima pezzi. Vedi come adesso. Oppure quali sono... Qual è una possibile... Esattamente come adesso, infatti vedi come è morto. Un'altra possibile domanda è... Quali sono, cioè, i punti deboli delle difese della città dei diavoli? Anche. Non so se te lo dice. Sì. E no, poi beh, perché no? Proviamo a morderla, Ciccio. No, no. So. Che ne dite, ragazzi? No, ci stava. Così lo compagni di avventura. Una possibile domanda potrebbe essere chiedere quali sono le difese della città dei diavoli. Come fanno come si fa a penetrare nella città dei diavoli? Chiedi questa, almeno non ci penseremo, forse. Se saremo ancora in grado, se siamo ancora vivi. È probabile che... I nostri mentori abbiano pensato. Ragazzi, io non ho preparato l'avventura fino a lì. Io non ho preparato l'avventura fino a lì, lo dico. Cioè, posso dirvi una roba in generale, ma non c'è la botola. Secondo me non c'è niente di simile. Anche perché non c'era possibilmente. Beh, poteva esserci. Ma è generica, perché Magic Missile nel coso di, esatto, di ventilazione, boom, esplode tutta la città dei diavoli, ci resta la sratite. Potrebbe essere una bella idea. Dead City. Ok, allora niente. Chiediamo qualcosa della barriera che si fa intorno, cioè. Chiediamo qualcosa per tornare indietro. Sì. Che c'è il buco di sabbia. Chissà se lui ha conoscenza dei telefoni. Sì, può essere una domanda. Viene in mente qualcos'altro? Chiediamo se esiste un modo per tornare da dove o veniamo. Se, no, tipo... se esiste, qual è? Quello, qual è il modo... E per... se così risponde anche se esiste. Sì. Esatto. Non lo so, bene, finito. Ciao. È vero che ti intendi in beh. Sì, ci sta. No, però l'avevamo già pensato. Non lo so, se non ci viene in mente poni altro, chiediamo domanda. Così. Poni pure la domanda, Abraham. Penso un attimo. Sodoma, poni pure la domanda. Va bene, dai. Chiediamo così. Diavolo, sì. Okay. Si mette a ridere. No, che razza di domanda è questa? Non c'è niente oltre il muro, come non c'è niente oltre la voragine. È impossibile attraversarle. Questo è scemo. Comunque non sai rispondere. Possiamo metterla così, anche in questo caso è un'informazione comunque. E se noi ti dicessimo cosa c'è oltre la voragine? Non si può. Ecco qual è il modo. E se noi ti dicessimo che oltre il muro c'è qualcosa che noi veniamo da lì? Saresti interessato? Crederei che tu fossi un pazzo, probabilmente. Un pazzo che ti ha liberato, però. Pur sempre un pazzo. La voragine, dunque, è la fine del vostro mondo. La voragine e il muro. Io te l'ho detto. Certo. E la voragine e il muro, e poi? Niente. Non si scherza, loro non lo sanno. Pensano che non ci sia niente. Cazzo, i diavoli sono. Non siete molto intelligenti da qui, da queste parti. Nota che i diavoli, tra l'altro, sono... creature di Osmo, cioè voi non lo sapete magari, però creature di Osmo, quindi dovrebbero sapere anche di tutti i portali, quelle cose. Sono creature? Cioè loro sono praticamente parte del dio Osmo. Ah, giusto. Loro dovrebbero sapere anche dei portali, queste cose qua. No, non sa niente, niente. Lui non sa niente. O lui non se lo dice. Fa una prova di conoscenza e religione, magari tu lo sai. È difficile poi dire una cosa del genere. 10-26. No, facciamo che non lo sai, direi che almeno 30. Beh, non è a conoscenza del nostro mondo lui. Forse è meglio non rivelargli nulla. Sente, Pac. Sì, non è che adesso c'è. Certo. Certo. Tanto che sono pazzo al massimo, quindi cioè non è che... Va bene. Bene. Pensi che... Se la ritiene un'informazione questa. Una risposta alla vostra domanda, in caso. Non avevo detto che... Se non fossi stato in grado la risposta alla tua domanda, io ho risposto in tutte le mie possibilità. Certo. Bene, dunque bene. Ora cosa la risposta può non soddisfarvi. Certo. No, in realtà è interessante comunque. Sì, capisci quanto sono limitati. E ora passiamo al servizio. Esatto. Camera? Comunque sia, prima di passare al servizio, per ricompensare questa amicizia, ti do un'informazione gratuita, il cui valore è elevato proprio perché è disinteressata. Sono tutto orecchi. O conna. Oltre il muro, in realtà c'è un mondo. Non è vero che il vostro mondo finisce. Non ho nessun interesse a mentirti, quindi prendi come vuoi questa informazione. Non dice questo, non dice nulla. Pensa che siamo ci pensa. Ok. Sicuramente se avete intenzione di dirigervi lungo il regno di Taraka, cioè verso il regno di Taraka, sconfiggerete e incontrerete molti nemici, immagino, e insieme a loro i loro tesori. Troverete e raccimolerete. Se è il caso che, come potete vedere, io ho una riserva abbastanza grande di tesori e oggetti magici. Quindi io vi dono questo. E vi dà un flauto. No. Ah. Con questo flauto sarete in grado di farmi sapere che siete interessati a barattare quello che avete trovato con me. Ah. Posso prenderlo io? Dalle sue mani? Sì, l'ho solo segnato, ma in realtà... No, di cioè, sì. Allora lo sai per picchiarlo? Per picchiare? No, chiaro. Come è fatto? Un flauto di vetro, come la piramide in cui era rinchiuso. Siamo un po' fragile. Ho scritto un flauto barato. Meglio che non lo tieni tu. Non è una buona arma. Grazie. Beh, sicuramente. Sarà un piacere reciproco fare affari. Sarà un piacere. Quali sono le sue tariffe, visto il mercato, visto la scarsa concorrenza? Secondo te posso chiedergli di riparare la spada? Spero che con le... Eh? Posso chiedergli di riparare la spada in cambio di denaro? Beh, ah, in cambio di denaro? Pa... Ti fa un prezzo assurdo, secondo me. Vabbè, chiedi, non costa. La mia lama è stata gravemente danneggiata. Mi chiedo se tu, in cambio ovviamente di un compenso... Aspetta, Baka, scusa. Dimmi. Allora. Risparmiamo. Vorrei cominciare acquistando una pergamena di un incantesimo che permette di riparare gli oggetti magici. Quanto costa per il pacchetto? Un incantesimo di secondo livello. Se basta quello, se no se ci vuole sì, il greater. Make wall basta, sì. Make wall basta? C'è scritto così. Perfetto. Non serve il greater, quindi. Ah no, no. Quanto costa? Arancito. Mi pare sia tipo... 75 o 250 è proprio per caster level, per forse 75 però... no 25 forse. Sì, te lo posso dire dopo magari. Sì, dai, esatto. Ce l'hai? Sì, lui fondamentalmente ha quasi tutto. Sì, o sì, lo sì. Crea. La riparo io la tua arma, Baka. Ti ringrazio, Abraham. Ti do l'arma da molle così. Sono ancora morto. Per un prezzo particolare. Ho anche questi unguenti, naturalmente. Di cosa si tratta? Permettono di riportare in vita i caduti. Mm. Qual è il prezzo? Tutti i caduti? Anche i caduti sotto forme diverse? Sì, sì. Beh, noi non sapevo che in realtà era fatto. Anche mondo. I vampiri. Beh, i vampiri. E poi non sappiamo niente di altro. Qual è il prezzo? Ma si tratta di... 2000 monete d'oro. Mm. Ciascuno? Sì, ne ha 1004. No, il fatto è che io mi sa che no, c'ho uno spell della strega, no? Che l'avevo, però adesso non mi ricordo qual è. Che avevo segnato tra quelli che imparavo, che fa la risurrezione. Beh, io poi ne prenderei. Cioè, non l'ho imparato, ma che potevo imparare. Comunque io davvero ne prenderei lo ecco, stesso. Della witch, ma di ottavo. Prendiamoli, tanto c'è Marchiora. Sì, e poi serve un diamond di 10.000. Eh sì, è quello lì, è che... Così magari facciamo resuscitare anche Spirla là, della carnivora. No, la cannibale. Aspetta, come si chiama? Dopo. Come fai a farlo suscitare? Non c'è più. Ah, figa! Poi avete visto la sua vita, comunque. Aspetta, scusa. Lui dovreste vedere anche la sua vita, in effetti. Ah, è vero! No, ma lei non è morta. È la vediamo. No, no, no, perché la sua anima è ancora qua, perché è diventata un vampiro sotto il controllo di quello là, in teoria. No, ho capito. Ma come facciamo sulla fortuna di vita là? Beh, figo se vedevamo la sua vita, no? Dove no, effetti... il suo background? Non potremmo farlo tornare in vita il... L'altro. L'altro, vero? Dro. Sì, lui si può far tornare in vita? Non abbiamo il corpo? Se volete sì. Ah, siete obbligati. Ecco un altro. Eccolo qua. Reincarnate della Witch che costa 1000. Però ti dà un altro corpo, credo. È another body. Sì, reincarnate, sì. Ma anche questo bagno in momenti. Ma qua c'è solo quella, abbiamo detto, no? Ah, perfetto. Anche questo qui? Sì. E allora... preferisco comprarmi lo spell della witch. No, ma per lei, scusa, se, lo fa, se, se glielo versa, cioè un altro corpo, quindi non è la stessa ragazza. Cioè, due capi ragazze, poi tanto. È economicamente più vantaggioso per noi che io. Sì, costa un bel po' di più, però. Cioè, te la apriamo poi. Eh sì, certo. Se siete disposti a smezzare la spesa. Cioè, sai cosa? L'unguento è utile perché se muori tu, usalo qualcuno. Li recupererai con me. Esatto. No, sì. Comunque no, facciamo che non aumenti i prezzi, c'è anche questo anche 1.400, già ci avete le più scarse. Ah, ma che aumenti i prezzi in mercato di monopolio non mi sembra. È un po' un figlio di puttana. Prova a dirglielo. Un po' lo è. 1.400 quindi. Cioè, non so, magari comprerei uno. Sì, ci sta, essere. Ci sta. Dobbiamo comprarli per forza. Potrebbe esserci utile un giorno. Per ora compriamone. E anche bacchette, puoi incantarvi le armi, quello che volete. Sì. Il fatto che ho 2.000 dindini, non so cosa faccio con dindini. Va bene, per ora compriamo uno di questi unguenti che hai così magnanimamente pubblicizzato. Okay. Diamogli il denaro. Okay. Chi ha la borsa? Forse c'è il tuo. Tu c'era lei, probabilmente la borsa. No, ma lei non aveva i soldi. Ah, no, tu sei morta. No, ma comunque io non avevo i soldi. Sì, che sì, soldi. Ce li dovrei avere io. Sai che tu avevi i soldi, avevo solo i bacchette, quelle cose lì. Ah, sì, 589 GP. Vabbè, se... non ci basta. No, beh, no, io ne ho 1.800. Io ne ho 5.000. Io ne ho 5.000. Quindi se... ne hai 5.000 da parte? Me l'hai scritto tu, eh? 5.685. Che sì, catroia. Beh, sì, ci sta. Se lo paga, magari. Sei morta, te lo paghi. Sì, però voglio un altro kunai. Vabbè, adesso... ti chiedo al mio. Ma il suo adesso gli metto l'arma a posto. No, ah, un altro ancora. Okay. Va bene, allora lo attingiamo giustamente dai soldi della nostra caduta. E comprate cosa? Un unguento, quindi. Un unguento e l'incantesimo. Riusciamo a collare per comprarne un altro? Sì. Io sì, perché l'incantesimo è di quinto, cioè costa un po'. Quindi aspetta. Quanto costa? 1000? Costa 1000. Avete anche gli achi da vendere, comunque. Ah, è vero. Gli diamo... ah, possiamo tipo... vendere tutto. Anche tipo 1000 passa l'uno. Potremmo darti... Ma aspetta, erano più 5, hai detto. No, 4 sì. Archi più compositi 5. 3 più 1 enhancement. Ok, già solo che enhancement è 2000 monete d'oro. Composito più 3 vuol dire che costa 400, più il fatto che devono essere masterwork altri 300, 700, costa 2700 l'uno. Diviso 2, 1350. Possiamo scambiare gli archi per gli unguenti. Sì, ma cioè, c'è il solito pezzo di mezzato. Vabbè, tutto, però non è così... Scusa, costa circa un arco. Sì, circa uguale, sì. Vabbè, per ora gli diamo un arco e prendiamo un unguento. E vendiamo gli altri e ci segniamo i soldi. Quindi quanti soldi mi sommo, scusami? Sono 1350 per 3 meno 50. 1350 per 3, 4050 meno? Meno 50 perché 4000. Costa 1400, un arco costa 1300. 4000 precisi. Ok, questo fondo comune però, più 4000... Aspetta, ma mi sa che tu nel 4 hai cancellato... Io c'è anche il mio di arco, l'hai contato, vero? Che lo vendevi? Sì, e in più un unguento. Figo. Allora tieni qualcun altro. Però ora teniamo gli unguenti, non compro lo spell. Un unguento. Più uno dai suoi soldi. Tu sei sottratti dai soldi. Quant'era? 1.400. Ma uno per noi e uno per lei? Sì, uno per lei, uno comune che chi muore se lo paga. Uno lei e uno noi, ok, va bene. Anche va bene. Se boh, un po' un mostro, un po' una cattiveria, però. Che chi muore se lo paga, non so. Vabbè, per ora ci pensiamo. Mi avete fatto pagare le cure, cioè, vorrei dire, quindi. Sì, ci sta, direi. Ok. Sì, figurati ci ricordiamo quante cure hai usato tu. Quelle no, tipo, esatto. Cioè, no, cioè, però qui mi hai usato il restoration, ti volevo pagare. Vedere quante è calata la bacchetta e pagate quella, direi. È appunto diviso. Appunto, quello che dico, non è giusto. No, perché anche quando abbiamo fatto con gli scorpioni abbiamo fatto che pagavo io i singoli, da, cioè i singoli che avevamo fatto, sì. No? E allora, cioè... Dai, ok. Per ora siamo a posto, grazie. Questo flauto ci sarà utile comunque. Non ne ho dubbi. Cioè, sì, dai, non ne ho dubbi. Flauto di non l'ho già segnato, se vuoi. Ah, vabbè, comunque teniamo una doppia copia in mezzo. Tu cosa ci metti a fare, scusami, una roba del falco? Di sei di livello? Cerco subito di apprendere, no, perché ci vuole un po' di sì, due sì. Ore, due giorni, non lo so. Vabbè, ora devi attendere. No, per vedere se tengo il kunai e le tue gambe del tavolo. Poi tieni il kunai per ora. Poi quando sarò sulla nave posso... mi dedicherò allo studio di questa pergamena. E ti darò le tue gambe del tavolo a quel punto. Io posso... incantare le mie pistole. 6 soldi, no, penso. Quanto? Costa 2000 farle più uno. 1850, no. 1825, no. 2000 farle più uno. Quanto costa un kunai? Quanto costa un kunai? Una mai farò. Pochissimo. Sì, diciamo che me l'hai preso, ok. Cosa? Mi hai comprato un kunai con i miei soldi. Ma ti do il kunai, ma sei scherzato. Ma un altro. Ah, un altro, ora sì. Perché devo comprartelo? Ma non ora... sa che lo volevi. Poi chiamiamo il coso e lo compri. Sai, lo vogliamo un kunai. Lo facciamo venire apposta per il kunai. E ora? Bellissimo. Ok. E ora andiamo, direi. Ah, finiamo? Mezzanotte 20. Sì, dai, mezzanotte 20. Ok.